Pronti? Chi è avanti? Vai Gianmaria. Non sono Gianmaria. Ho sbagliato, scusa. Mi scusi, dai. L'antenna sta a posto? Penso di sì. Hai chiesto controlli anche più lontani? Come? Hai ricevuto controlli anche da più lontano? Sì. Quindi stanno bene, sei soddisfatto allora? Anche troppo, ce n'è per i porci. Dai, mi fa piacere. Oggi sentivo anche qualche inizio di propagazione, se non sbaglio. Sì, vabbè, sono in macchina. Al lavoro si fa. Al lavoro so. Dico, c'era propagazione oggi, no? Ma io non ho sentito. Quanto fa, sul 13 sentivo roba straniera. Per un attimo, una mezz'oretta, poi invece sono scomparsi. Sarà chiusa. Questa alta pressione si sta calando di nuovo, questa aria fredda. Qui c'è aria dalla Russia, sta venendo. Adesso che non lavoro. C'ho parenti in Germania e c'è lì, sta nevicando di nuovo, per carità. E noi eravamo al mare il giorno di Pasquetta. Abbiamo fatto le foto, detto, non è possibile. Sì, altro che non è possibile. Ho visto grandine, ma speriamo che non cambi molto, perché qui è tutto in fiore, sennò fanno un danno enorme qua. Vabbè, la roba di neve, mamma mia. Il colpo di coda dell'inverno. Io come ti arrivo con questa antenna oggi? Come ieri o peggio? Ma arrivi sempre bene, il segnale non l'ho guardato, quanto mi arrivavi ieri. Non lo so, perché questa è un'altra antenna, questa c'ha lo stilo in acciaio, quella di ieri invece quelle vecchie fruste nere. Ho capito. Mi sta arrivando Santiago 6 con i picchi a 7. E quindi già è buona, cioè non è tantissimo. L'ho appesa così a un paletto qua, l'ho appesa a un paletto di recinzione, l'antenna, per avere un po' di massa. Ehi, già va bene. E poi ho buttato il cavo dentro dal finestrino e per farmi due chiacchiere, un paio d'ore, se no non mi passa più. Ci si è rasura in Chivi, devi rimanere in Chivi, è logico. La gioco di Valetta in oggi, almeno due chiacchiere te le puoi fare. Sì, mi assento ogni tanto, qualche minuto, poi sono di nuovo libero, a intervalli. Non è entrato nessuno ancora, no, io l'ho acceso poco fa. Anch'io l'ho lasciato acceso dopo che ho collegato l'antenna, ma sentivo qualcuno che entrava ogni tanto, faceva un paio di fischi e fiaschi, e poi niente di serio. L'ho sentito anch'io quello. Per me era appena percettibile, quindi sicuramente era lontano. Ma me abbaiando sai tu cosa vuoi? Si sente tutto con quel microfono che c'hai, è molto amplificato, si sente qualsiasi cosa, televisione, la signora, tutti si sentono. È pure il microfono normale dell'apparecchio. No, è buonissima, la radio è buona, però amplifica parecchio, sicuramente c'hai il guadagno del microfono, se no il mic gain. Sì, c'ho quello, il doppio modulatore, qui questo è un apparecchio, insomma. Roba seria, allora, questo ce l'ha il guadagno del microfono, non so, questo penso che sia a manetta, sì, è a massimo adesso. No, io ce l'ho a 8, l'ho messo. No, va benissimo, sento molto bene. Forse questa modulazione la preferisco all'altro microfono che usi, a volte che è più rimbombante la voce, per questo apparato che ho io qua. E l'altro è un MB4, lo uso con l'altro apparecchio. È molto grossa, la sento molto robusta come voce. Claudio, sei rientrato oggi, no? No, non ho sentito a nessuno, e mentre adesso le 5 lui. A fine lavori, va. Aspettiamo un po' allora. QRM è zero con questa antenna, questo un silenzio di tomba, sento. Pensavo che non funzionasse nemmeno, figurati questa antenna. Io c'ho un antennino corto, piccolino, adesso mi rimetto la PLC 800, quella sì che pompa, quella che usavo come antennina. Questa è una Sigma, non so se sia la PLC 800, non è molto lunga, perché mi ricordo la PLC 800 era parecchio lunga. E con lo stilo d'acciaio e la PLC 800. E questa c'è lo stilo d'acciaio e poi sotto c'è la carica, la bobina, la bobina nera. E via. Però penso che ce ne fossero di varie misure di queste antenne qua. Questa sarà, lo stilo sarà da un metro e 1,40, 1,50 credo. Ma già pompa anche quello. Sì, che cosa ci vuole un bel piano di massa che qui magari, non ha. Sicuramente aumenterebbe anche la ricezione con una buona massa, ma non voglio fare i buchi nella macchina per adesso. Ma devi stare attento per le stazionarie. No, già ho sempre un accordatore piccolino, come si dice, l'apparato, poi c'è lo strumento, quindi riesco a buttarle giù abbastanza facilmente. Non ho la chiavetta per regolarla perché ho faticato un po' a abbassarle, quindi vuol dire che non è tarata di stilo. Sì, ce l'hai messa con... dipende anche da dove la metti, capito? Se tu la ce l'hai nel tetto della macchina già la abbassi subito. Se la massa è precaria invece è un caso. Infatti è molto precario, un picchetto di recinzione, cosa vuoi che abbia, è appoggiato così, non è una buona resa. Comunque, per adesso la lasciamo così, dai. La zona è abbastanza aperta qua, non ho ostacoli, quindi. Infatti, a me mi sta arrivando bene, poi non c'è problema, poi se non c'è QRM tanto di guadagnato. Sono proprio zero. Se non sbaglio, ieri quella frusta nera mi arrivavi più forte tu, il segnale era più forte. Poi questo smitter è molto avaro, non segna quasi nulla, non sale neanche a bastonate, è molto avaro, forse vuole regolarlo. No, ma ce l'hanno di vizio quelli di essere avari. Adesso neanche a 3, ieri diciamo arrivavi forse 4 o 5 con picchi di modulazione verso il 7. Non so se stai usando la stessa potenza di ieri. Penso di sì. E allora proprio questa antenna che è più sorda, oppure perché è messa così nel picchietto, ieri invece avevo la base magnetica, forse c'è un piano di massa superiore. Certo, con la base magnetica prende di più. Sì, allora qualche giorno stacco tutto e provo a saldare l'attacco nella base di questa antenna qua, anche perché questa è più leggera da portare via, quella è molto pesante, come antenna si può anche staccare quando cammini, questa invece taglia l'aria, è molto leggera. Infatti. Una volta quella mi si è staccata, quando c'avevo da ragazzo, c'avevo un'altra macchina, si è sbattuta al finestrino di poco, mi spacca il vetro. Perché ci vogliono basi magnetiche serie, capito? Vuole bella larga, se no è logico che ti si capotta se l'antenna è pesante. No, proprio mi sono dimenticato, lì nel rettilineo di Olmedo, stavo camminando un pochettino, mi sono dimenticato di avere l'antenna, quindi è normale che si sia, deve essere la 140, ma è normale che si sia attaccata andata lì. È normale, sì, io già ce l'ho una bella larga qua, e c'avevo la PLC 800 in quella base magnetica, l'avevo attaccata al frigorifero, prima uscivo così. Sì, ma già va bene, ma questa come base è larga, penso che sia, non dico 20 cm, ma 15 cm di diametro ce li ha, è abbastanza larga come base. E allora sarà tipo quella che ho io, là. Sì, mi ricordo che si era staccata la carta, c'era una specie di carta stagnola sotto, ti ricordi? La gomma, c'era la carta stagnola e poi la gomma. Io mi ricordo questo strato di carta stagnola che poi è uscito e gli avevo messo la gomma, però mi sa che era troppo spessa la gomma, e anche per quello che tendeva magari a staccarsi alle alte velocità, ma ci vuole proprio sottile per non perdere forza la calamita, il magnete. Sì, adesso me la sistemo piano piano. Ti metti quella là, questa qua nella base magnetica, se è più leggera, e la attacchi alla macchina praticamente quando la devi usare. Allora, così quando mi serve, perché a volte facciamo delle uscite con degli amici dove siamo in carovana, ci serve comunicare uno con l'altro, vabbè ormai con i cellulari ormai non si usa più, però qualcuno ce l'ha ancora. Infatti, oppure si usano quei portatili PMR, capito, almeno non devi piazzare nulla. E allora, anche quelli, anche lì puoi prendere un antennino da mettere sempre sulla base magnetica, che va ancora meglio. No, ma ne puoi mettere, quei PMR devi andare con l'antenna sua. Sì, vuoi fare le cose in regola, ma cioè, ci sono anche quelli che smonti l'antenna e gli attacchi il PL, no? Non è così, ne sai? Ecco, sì, ci sono quelli lì anche, però quelli non è che siano tanto in regola. No, no, come regola non deve essere estraibile l'antenna, l'antenna deve essere fissa, pochi canali mi sembra. E boh, però qualche eccezione ogni tanto già la facciamo. E io ce li ho due della Brondi qua, di qui PMR. Che sigla hanno? Quelli di FX10 o i 35, quelli più moderni c'hai? Cioè. Ma adesso non te lo so dire, già li guardo perché ce li ho sopra lì, già li guardo e te lo dico quali sono, caspiti. E poi c'ho due di quei Baofeng. Li sentiti questi qua, ma stanno andando alla grande questi Baofeng, quei Vaolux, cosa cinese, ma vanno bene. Quei Baofeng ci hanno trovato quelli che ho io. Li hai misurati, se sono effettivi? Eia, c'ha tre potenze, c'ha. Quelli che c'ho io, c'è un Polmar, c'ha due potenze, 5 o 10, ma non lo so se ne dà 10 watt. C'ha una bella batteria da 3.700 mAh al litio. Ho visto che già dura anche se usi la massima potenza. Eia, già li danno, se non 10, proprio 8 almeno già li danno. Dipende dalla batteria. Eia. Capito, poi c'ho anche una batteria maggiorata che vivo nel 3D a Carigalla. Sì, ma diventa pesante, già è pesantuccio con quella batteria da 3.700. Diventa come quel cellulare di una volta, ti ricordi che si mettevi le batterie doppie, ma era una cabina telefonica diventava. Senza batteria telefonica sono piccoli questi qui, se metti quella batteria là diventa un po' più grande. Se l'hai trovata da internet la batteria? Me l'ha fatta arrivare il Baofeng, quello, il GT3 c'ho io, ne ho due di qui. Non li conosco, ne ho visto parecchi perché ci sono un sacco di modelli, di sigle, non so quale sia il migliore. E che frequenze copri? Fino a 480 mi sembra che vada. Senza modifica o l'hai modificato? No, senza modifica, così è arrivato. Ma io lo uso per ascoltare, capito? Anch'io lo sto usando per ascoltare, basta, così, per curiosità. Poi tanto la spesa già non è tanta. Infatti. Il sole è caldo, ma l'aria è fredda, ci sono 15-16 gradi al massimo. L'ho visto su internet che c'è aria fredda dalla Russia, dice. Sai che dentro la macchina c'è un foro e qui non c'è neanche un albero per metterti all'ombra. E quando scendi invece c'è la Siberia, cioè, non dico la Siberia, ma si sente lo sbatto di temperatura. Sono quasi le 5, sarà ancora addormentato Claudio. Ah, si fa la pennichella, si fa dopo pranzo, così, quando arriva. Perché esce alle 2 da lavorare, quindi si corica un po'. Ieri da quando cioè, non c'è manco andato a casa sua, si può dire, che stavamo piazzando l'antenna. Già mi ricordo tutte le vicissitudini che ha raccontato. Io mi assento 5 minuti, vengo subito, che pennina. Papà. Avanti. Maniaco. Ascolta, cuomane. No. Un pugno. Adesso si chiama di forte, barrando. E perché quanto ti arrivo? Un bel po' alto se. Fai un passaggino. Guardi. Quasi 9:20, sì. cazzo. Vabbè cazzo, se te ne sono andata a posto te lo credo. E a me che poi ascolti. Ehi, uguale me. Abbiamo lo stesso apparecchio più o meno, là. Io ho l'S9 e tu c'hai quello. Ehi, già vanno bene, adesso sì che ti sento bello pomposo. Già lo credo. Adesso sì che sei tu. Mi nomi. E chi è che lo sento basso? Chi è? Se mi sbaglio dovrebbe essere Eugenio, tu sì. Ciao Eugenio, ben sentito, saluto. Ciao Eugenio. Non l'ho capito adesso perché c'ho troppo QRM, Antone. Cosa ha detto? Neanche io ho capito perché c'è tutto un bel eco appresso. Non l'ho capito oggi. No, e c'è un sacco di eco, ha parlato troppo veloce, come a volte faccio io, e non si capivano un accidente, dubbio ti sento. No, io tengo bene adesso a lui. Dimmi dov'è. Dove sei oggi? Sotto la veranda di casa sua. Ah, cappa. Lì lo sento basso sempre. Sì, ricordate che arrivi da voi. Ehi, da casa sua già esce meglio. Già va bene. Tutti, faccio un attimo di bianco, sto controllando un puddu e lo sto cucinando. E cavagaba. E anch'io sono qua in ascolto. Ok. Chi è? Ma pure i gazzettini, vabbè. Allora, che si dice? Arrivo forte? Anche tu arrivi bene. C'è vento, aspetta un attimo, a proposito, futuro. Adesso Santiago è 4 di portante, quando muro gli arriva a Santiago 5. Vabbè, 5, va. Vabbè. Vabbè, hai aumentato la potenza, tu. Eia. Ho messo la potenza a manetta, là, poco fa ero bassino. Sì, sì, va bene, va bene, va bene. Comunque avevo premesso il tuo Santiago più o meno, no? Speravo, cioè, avevo pensato che tu arrivassi qua con l'antenna Santiago 4, e così è. E quindi è buono per Alghero. Ma sì, ma nella tua posizione che ti trovi è buono, capito, come posizione. Va bene come arrivi, perché c'è poi Marco risulta più in alto rispetto a te, lui arriva a Santiago 7, Santiago 7 mi fa che arriva, vabbè, ne arriva molto più forte, però risulta più in alto, tu sei proprio basso e va bene. E infatti io sono in zona bassa a confronto a Marco, ma Marco abita in zona alta. Ma l'importante è che ci sentiamo qua lì. Di Giuseppe mi dispiace che non lo sento, Lo sento basso, basso, basso. Mimì, basso, basso lo sento a Giuseppe. Magari lui mi sente, non lo so come mi sente lì in zona sua. Chiediglielo a vedere. Ma lì parlando sa perché c'ho QRM e non lo sento bene a Giuseppe. No, si stava parlando, sì, appunto, no, sta aspettando Giuseppe che qualcuno le fosse un lineare, capito? Perché lui si sente. Ah, mi sente? Vabbè, perché io lo sento bassino, mi capito là. Vabbè, già quando si mette a posto già lo sentirò bene anche io. Sì, sì, sì, sì, perché lui c'ha come antenna, c'è un ragno, capito? La vecchia gran premi sta male, poi non no. Perché adesso per il momento Claudio le porta un lineare e così almeno riesce a sentirlo. Poi quando cambia l'antenna allora vedrai che lo sentirai molto meglio. E tanto basta un'antenna come la mia, leggera, tranquilla. E vedrai che esce più forte. 130. Se c'è una gran prima non è che. Vabbè là, già se si mette un'antenna come la mia, al limite scendo pure io a piazzarla, che la conosco già, così se deve piazzarla Claudio l'antenna non c'è problema. Adesso vediamo, dai. Sì, sì, sì, con un'antenna come la tua mettiamo, perché dove la deve mettere ci vorrebbe un'antenna leggera, perché la mantola è troppo pesante, non va bene, capito? Perché un giorno piaceremo anche quella. Ehi, vabbè, gli conviene una come la mia, che è leggera, capito? Capito mica so se riesco, forse veramente io. Sì. Sì, sì, sì. Vabbè, per il momento è così, sono salito. Vedrai, se poi un giorno sentirai molto più forte. Infatti. Natali. Eia. Chi ne se ne sentono ad Alghero? Come si chiama? Valerio? Valerio, guarda se senti a questo amico che c'è qua a Sassari, che è con un antennino di macchina. Vai, tra. Sì, Valerio, mi ascolti? No, Natali, io non sento nessuno, anche se c'ho QRM, zero, non sento nessuno. Dici che io lo sento bene invece, segnale zero ma la radio è buona. Lui ti sente a terra lì. Santiago zero ma la radio è buona. Ma che vuoi che ti dica? E lui è un antennino lì, buttato così. Vabbè, già se lo mette come si deve quell'antennino, così almeno magari arriva anche lì. E lui deve fare la stessa cosa che ha fatto tu, prima tu c'è l'antenna di macchina, no? Adesso è stata messa questa antenna qua e arriva da Alghero, tu devi fare la stessa cosa. Cappa. Ma dovresti fare come ho fatto io, di mettere una buona antenna in quella macchina, con la base magnetica, magari ci arrivi. Papà, perché io lo sento di radio benissimo, una radio molto forte, il segnale è proprio questo apparato, glielo sai come? Infatti. E che zona è lui di Alghero? In che zona sei di Alghero, Valì? Non ha risposto. Neanche io l'ho sentito adesso. E qua c'ho Monte Oro davanti, forse mi tappa, ma non sono, ci vorrebbe una zona magari scoperta, libera. E infatti, e anche a me, chi mi frega il Monte Oro? A Monte Bianchino bisogna salire in macchina, mi ricordo, salivamo lì su per fare collegamenti a lunga gittata, dai. Io lì c'ho la Mantova 5 che se ne sta arrivando sopra 12 metri di palo, perché io a Fidighedu ce l'ho la casa, 400 spiccioli metri sopra il livello del mare. E beh, non ci vai più lì? Io ormai da quando mi sono sposato abito qua, capito? Ma ce l'ho là, una Mantova 5 nuova, che l'avrò usata un mese, poi me ne sono andato. E è rimasta lì sopra 12 metri, pa, due spezzoni da 6 metri, uno dentro l'altro. E io dovrei averla giù, anch'io in campagna, mia. È una Mantova 1, quella a 4 radiali, dai. La mia era una Mantova 5 appena comprata. E una volta mi ricordo, in campagna me l'hanno rubata, hanno usato i tiranti, i cavi, diciamo, le corde, e hanno piegato il tubo, l'hanno abbassata fino a terra quasi, perché c'erano un bel metro di tubo, e hanno mollato, hanno tagliato il cavo e sono portata via, figurati. Una baracchiuri. Per carità, guarda. Mi sono ritrovato con questo tubo piegato fino a livello di campagna, perché era troppo alta, quindi l'hanno piegata con facilità. Era tubi di acqua, quindi anche se andavano a scalare, l'ultimo era mi sa da 3/4 era l'ultimo. E infatti un telescopico autocostruito così. Sì, quei tubi dell'acqua. Iniziavo con 2 pollici e finiva con 3/4. Ogni elemento quanto era? Sarà stato forse 6 metri, 6x3, quasi 18 metri di più l'antenna. 7 metri di antenna. Perché anch'io lì, non so se ti ricordi la zona, Villa Gorizia si chiamava. Villa Gorizia già la conosco. Non è molto alta, rimane un po' in un fosso. E quindi avevo optato per sollevarla un po' l'antenna e uscivo discretamente, dai. E beh, ci serve un palo così. Sì, uscivo bene. Poi la Mantova va un'ottima antenna, dai. Forse una delle migliori che abbia mai provato. Io ho la Mantova 5, era di lusso, perché ho avuto anche la Mantova Turbo, ma era, secondo me era meglio la Mantova 5. La 5 è uscita dopo, c'era un radiale in più, sempre vetroretine erano. Sì, la Turbo che ce li aveva in alluminio, però subito mi sei arrugginito dalla Biafra, me ne sono farà dei radiali, ce l'ho buttata e mi ho preso la 5. No, la 1 ogni tanto mi la smontavi, la pulivi, la rimettevi, sempre se li mettevi un po' di quel grasso buono nelle flettature, negli innesti, e la isolavi bene con Vulcan, eri a posto qua. Anche il PL, tutto isolato. E anche il mio ha fatto così. Questa adesso l'hai tutta isolata, sì. Eia, sì. Tutta vulcanizzata e poi una isolante sopra. Poi la Mantova c'era il ragnetto in punta e quello una volta mi sembra che mi si era rotta durante dei lavori, me l'avevano aspettato con la gru, stavamo lavorando e l'hanno toccata. E quindi ce l'hai la Mantova 1 in campagna? Sì, ci deve essere smontata, ci deve essere anche qualche direttiva che le avevo usate quando stavo lavorando a Arzachena e riuscivo a parlare qua con i punti, ma quando non c'era QRM, perché c'avevo i tralicci vicino, mi facevano quel rumore di corrente. Faccia la faccia. Noi le avevamo puntate, mi ricordo, con la bussola, le antenne, proprio per non sbagliare direzione, ma era difficilissimo parlare, molto difficile, da quelle parti. Cazzo, io in campagna parlavo da tutte le parti, cazzo, quando l'avevo alzata a 12 metri l'antenna, cavolo, da tutte le parti parlavo. E lì sei già in alto, sei già di tuo, figurati. poi facevi di ex, quando c'era la propagazione, mi arrivava roba, che poi più sani e più mondetta arriva a me. Infatti di ex al nastro facevo. Perché ricevi un sacco di QRM, ti dice, quando cambi antenna, un'antenna buona, sì, riceve bene, trasmette bene, però riceve anche un sacco di QRM. Poi io mi ricordo così. Adesso a te, con questa antenna si sarà cambiato un po', no, il QRM? Un po' di QRM ce l'ho. Comunque è una buona antenna, sembra così, ma va bene. Se ne vale quei soldi, da? Sì. Non possiamo rendersi così. Partiamo anche oggi. Arrivo da Claudio, arrivo sparato, 9.30, prego. Spegni tutto, io. Mimmi l'altro, mi. Buonasera a tutti. Ehi, Nathalie, antenna grande e QRM grande, ma quanto si arriva al QRM? Dimmi un numero dello Smith. A sbalzi arriva, è roba di corrente qua, boh, non lo so, magari il distributo di corrente, aspetta a vedere, a sbalzi mi, anche a 5 molte volte. Sì, quali sono cose elettriche, phone, lavatrici, di tutto di più. Il noise blanker l'ha inserito, l'NB? Sì, che è inserito. Almeno attenua il rumore. L'altro chi è, Franco? Sì, ciao Marco. Oggi ti ascolto più basso, stranamente, come mai? Beh, sto usando 4 watt, l'apparecchio omologato. Tu sei a caso in macchina? No, sono nello stesso punto di ieri, però oggi ho un'altra antenna, invece di averla magnetica l'ho messa su un paletto qua della recinzione, l'ho attaccata col supporto da basetta, dai. Deia, ieri avevo 10 watt, ma non cambia molto, mi cambia mezzo Santiago con 10 watt. Magari è il diverso posizionamento dell'antenna rispetto a ieri. L'avrei spostata di qualche metro. Ma capibile, sì. No, ti ascolto sempre benissimo. Sì, addirittura anche un'altra antenna, questa è un filo in acciaio, ho la base caricata. Ieri invece avevo la vecchia frusta nera, con la base magnetica però ieri. Eia. Bene, bene, dai. Io ho un freddo che non ti dico, anche con le coperte avevo freddo. E infatti qua c'è molto freddo, non so se rimarrò per adesso. Oppure mi metto la giacca, come ho fatto ieri, Natalino. Ehi, mettiti, guarda che sta arrivando freddo dalla Russia, c'è freddo per quello. Questi canali. Anche qui c'è freddo. Geniale. Yeah. E beh, Claudio. Ciao Fra, a Natalino mi segnala che c'ha. Bello. Sta sblaterando 40 canali qua. Sì, 30, 35 quasi qua, 9.35, ciao a tutti. Io sono entrato adesso perché ho recuperato quello di ieri, Natale, capito? Buonasera a tutti comunque. Allora. Ciao Claudio, ciao, ben entrato, Chi c'è, chi c'è? Per adesso Franco e Natalino, così io l'ho sentito loro due. E c'era anche Alghiero, però abbiamo rilanciati, c'era Valerio e anche Giuseppe, che io li sentivo appena, ora non è più ripreso comunque. E forse si sono spostati sul 15 a chiacchierare tra di loro, capito? E io dovevo andare ad Alghiero a portare quell'amplificatore a Giuseppe, ma non ce la faccio, sono già le 5.20, non ce la faccio. Ci andrò a fine settimana e così te lo porto. Va bene, avanti Natalia, affretta con l'antenna. Aspetta, ma stamattina la forma rigida che abbasso un po', l'ho alzato perché stavo parlando con Valerio. Che se no era troppo, era manetta. C'erano 20 watt e tu lo devi lasciare. 20 watt, adesso c'è l'antenna, se no non sfrutti la potenza della radio. 20 watt va bene. Eia, l'ho messo così. Infatti di 9.35, adesso sì, 9.30 qualcosa, beh. Capito? Poi fa i 9.35. Va bene. Cazzo ragazzi, c'è un freddo da cagarsi. Ah, allora non è la mia impressione. No. Guarda, io stamattina sono partito con il riscaldamento acceso, ti ho detto tutto. E tutta la mattina col giubbotto pesante. Adesso sono a casa, ho aperto la finestra per fumare una sigaretta, cazzo l'ho chiusa. Perché c'è un freddo da cagarsi. Pensa pensa che io ero sotto le coperte, no? Avevo freddo anche sotto le coperte. Freddo, c'è questa perturbazione russa che perlomeno produce domani. È così, c'è freddo, la temperatura si è abbassata tantissimo. Ma qui mi segna 15 gradi, fuori dalla macchina. Dentro la macchina c'è un bel caldo, perché il sole, dove si dentro la macchina, fa la lente, è scalda. Guarda, io ho il termometro nella finestra e uno interno. Ok, interni ne ho 19, esterni ne ho 15. Allora è giusto anche quello lì, vedi, siamo uguali. Se 15 gradi, minchia, al 20 di aprile, è critica la situazione. Ma c'ho il pigiama leggero. No, ma mi pongo la freddetta, sto voglio un freddo. Tu pensa che sabato sera mi ha segnato 29 gradi andando a Rosé? Ehi, c'è la gente facendo il bagno, non è di figurati. Ecco perché poi ti ammali, la temperatura è allucinante, c'è un freddo, non c'è vento freddo proprio, capito? Vento freddo. E quindi Natali, tutto a posto, sì. Ehi, tutto a posto, è da mettere a posto, ho entrato anche l'altro filo. Tutto a posto, ho tolto la staffa, quella che era a penzoloni. Bravo, quello un bel po' di pulizia, ok. Poi nell'altra, un attimino lì da Serafino, ci possiamo montare qualche altra antenna, capito? Visto che c'è quelle staffe. Ehi. Va bene, avanti Marco. Ma non diventate troppo ambiziosi adesso, No, beh, lì un'altra antenna la mettiamo, capito? Buccia di geografia, lì un'altra antennina la mettiamo, ci abbiamo il palo che passa davanti alla finestra, ma voglio mettere antenne lì. Sì, ma giù freddo, c'ho un vestito, eppure ho freddo con le coperte, e poi in questa stanza non te li dico, perché qua a me pare che qualcuna lasci tutto aperto. Adesso vado a chiudere tutto quello che trovo aperto, riprendete. Sì, oggi bisogna chiudere, perché sennò tende a raffreddarti i muri. Poi quando arriva il caldo finirà questo colpo di coda d'inverno. Temo nuovamente, dai. Te la volevo dire. Riprendi qua. Io. E tu come mai ti facevo questi turni? Perché manca gente. Se non veniamo noi qua a fare queste verifiche, non può essere libera la circolazione, capito? Allucinante, peggio di noi. Figurati domani mattina. Per andare a Sorso, per aspettare un collega, dobbiamo scendere a Sassari, fare del materiale alla Elcom e poi tornare a Vidal. Chissà che ora ne esco domani, per carità, guarda. E cosa vuoi fare? Adesso ne ho fino a sabato sera, poi vediamo un po', questa settimana se sarò almeno di mattina, poi lo spero. Comunque quella roba là, ok, mi ha detto la signora. Oh, ti ho detto ok, perfetto, allora glielo dico Anna. Sì, ti ho sentito Giuseppe, non ti preoccupare, vorrei che già l'ho sentito Giuseppe. Lo sento. Sì, Giuseppe, sto rientrando adesso, non ti ho chiamato per quello. Ehi, Giuseppe, no, ma è da fare quella cosa, c'ho già tutto, è che sono incasinato, perché ieri ho saltato il rientro, che appunto avevamo il montaggio dell'antenna di Natalino, quindi oggi ho dovuto recuperare, se no mi tocca lavorare di nuovo domenica. Capito? Mi tocca lavorare di nuovo domenica. E quindi ho recuperato oggi, sono uscito lì poco fa. Capito? Per quello non ti ho chiamato, perché era già tardi, te l'ho detto. Però vediamo un pochino di organizzarmi tra insomma domani, dopodomani, vediamo. Questa settimana devo salire, insomma, perché bisogna completare quella cosa lì. Però arrivi molto bene, non ti preoccupare, che tranne Natalino, che chiaramente ha una posizione un po' diversa dalla nostra, ma comunque riesce a sentirti anche lui basso, quindi. Però poi adesso appena vediamo un po' più di gas lì, arrivi benissimo. Ciao, allora, buonasera anche a te, avanti. Buonasera. No, sto parlando tanti con Natalino, se mi chiede, mi entro nel corso un attimo. No, stavo entrando nell'amplificatore del PC, che sentivo la mia voce. Un po' tanti stavo parlando con Natalino, sono giunto a allontanare un attimo, se non... Ciao frate, buonasera. Sono tutto bravo, quindi. No, avevo questa cosa, quindi è da fare. Quello che ho detto Giuseppe, ma se sto a posto, sono rientrato, l'ho fatto oggi rientro anche che ieri, quindi non c'è problema, adesso mi aspetta venerdì, quindi vediamo un pochino, vai. Così sistemiamo quelle due cosette. Giuseppe arriva molto bene comunque, anche l'esadi è perfetto, lo sento benissimo. Cosa vuoi dicendo, Marco? Ho visto la Natalino, quella, cos'è quell'antenna? Quell'antenna della 27 nera, la Storm. Ah, la bazooka, sì, c'è quella bazooka nera lunga un metro circa, le avevo prestata per modulare temporaneamente, capito, ma non l'ho usata. Ho capito, ma ti serve a te quella lì? Me la posso far prestare io da Natalino, se non serve a Natalino, voglio fare una prova sul tetto, la mettiamo su, attaccata così, palo palo, a vedere come arrivo. Provala, non c'è problema, provala, vuoi vedere come arrivi con quella sul tetto, così? Sì, col DAC, capite? Così non sto a staccare antenne, antennino, e attacco quella e proviamo il baracchino a vedere come mi sentite dentro Sassari, fuori Sassari, perché essendo alta magari esce bene. Ehi, qualcosa fa, sicuramente sì, gli manca una staffetta però, ne ha solo una. E lì ce ne vogliono due, trova qualcosa magari per fissarlo, anche a spago, mia, fil di ferro. Ma che ce l'ha la staffetta, gliel'ho messa io. Infatti l'ho vista io, bellissima, Antonio ne ha comprato 6 di quelle staffette. Già c'è, l'aggancio lì sotto il palo della direttiva, a vedere come esce, capito? C'è un cavo volante che lo tengo di scorta. Così, giusto per fare una prova. Abbiamo le staffette palottali, abbiamo anche l'altra staffetta che mancava, quell'antenna, che gliel'ho messa io. Bene, me l'ha tratta lì. Ci vediamo, la proviamo. A vedere se va bene. Ui, oggi, comunque già va più duro di fila, oggi poi una passata di chilometri che non vi dico di più, pranzo, zero, chissà, vabbè, avanti Franco. Sai che a volte sento delle scariche nel tuo segnale, non so se dipende da me o da te, chiedi anche agli altri. Scariche? Mi sentite con delle scariche a me? No, dipende da Franco, dai, anche io ho delle scariche di QRM, ma sicuramente io so che cosa è elettrica che mi rivasi, no? Capito? Mi sale il QRM di colpo a colpi sale. No, nel vostro segnale quando c'è silenzio è liscio. Claudio, sento dei rumori delle scarichette sul fondo proprio, boh, se le porta appresso. L'ho sentito anche ieri, se non sbaglio. Non so, avete notato le scariche da me? Valerio, Marco, Adesso no, Cla. Io altre volte ho notato un qualcosa come delle micro scariche. Prova a tenere la portante muta per 10 secondi, vai. Il cellulare è male, affanculo. Aspetta che lo sposto. No, ne ho scarichi io. È tutto a posto qua, vedo il battimento bello fermo. Se sentite scariche c'è la finestra aperta, forse la tapparella che sta battendo. No, era qualcosa di elettrico, adesso era perfetto. Probabile che sia come dice il Valerio, dice il cellulare proprio. Sì, era quello, te l'avevo già detto una volta, Claudio. Sì, il cellulare che lo metto qua nel piano, vicino ai microfoni, capito? A volte mandavo messaggi. E quindi magari quando fa così, adesso l'ho tolto, l'ho messo lontano. Va bene, dai, facciamo girare. Avanti, vale, fai girare tu. Poco ti avevo detto, no? Che era anche l'altra volta, quando c'è del cellulare vicino, allora si formano queste scarpe, ma vabbè, ma non niente di grave. Mi prendo Giuseppe. Perché arriva sempre più basso Giuseppe? Adesso è sceso a Santiago 3-4. No, qua è Santiago 7 stabile. Santiago 7, vabbè, Giuseppe c'ha, sta usando il baracchino, che c'ha 5 watt modulati 20. quindi qua è Santiago 7, non è così basso. Eia, ma qua le modulate non ci vedono proprio, vabbè, sì, tipo 3-4 e facciamo 4, dai. L'altro giorno era 5.5, vai, torna indietro. Io non so, magari dalla questo momento bisogna muovere l'antenna, e lui c'ha un'antenna molto particolare. Adesso noi abbiamo schiamato Antonino, adesso è tempo bello, prendiamo lo stesso un'altra energy, 5 ottavi, e si mette al posto di quella lì senza fare molti movimenti, si toglie la Grand Prix e si mette a quella, perché è favoloso a mettere così, capito? E così lui dovrebbe essere a posto. Dovrebbe essere a posto, al limite si cambia il cavo e basta. Adesso deciderò quando intanto ci devo andare in settimana, deciderò cosa. Decidiamo assieme cosa fare, e così si ordina l'antenna e via. Ah, lui ha una Grand Plane. Sì, ha una Grand Plane, è già troppo che lo sentitemi, è una zona Sant'Agostino, è molto coperta, la Grand Plane è 2 metri di palo, capito? Però arriva, esce abbastanza bene. Marecchino sta usando il suo base, capito? Adesso però dobbiamo agganciare la linea retta per avere un po' di potenza in più, quindi arriverà molto meglio, però ti ripeto, qua è Santiago 7, con l'altra era 8.5, con questa è 7, però adesso per farlo arrivare a 8.5-9 gli aggancio il linea retta, che sono andato a ritirarlo l'altro giorno, che è una riparazione, capito? Va bene, avanti Natali, fai girare. Figlia. Adesso sto usando il presidente, così l'altro si riposa un po'. Volevo dire, se mette l'energy riesce un po' più forte. Cavolo, se mette questa qui, Giuseppe ha fatto 13. Io con questo presidente Natali ti ascolto una favola. Sì, lo stesso segnale, per me non cambia niente, e la radio è spettacolare, fortissima. Perché c'è l'MB+4 quando funziona. Ma quando funziona, usalo sino a quando funziona, Natali. È favolosa la modulazione, fortissima, segnale 9.30, radio super 5. Vero Franco, cosa dici? No, l'ascolto bene in ogni condizione, dai, ormai esce bene. L'antenna è tutto in un apparato, Natali. Se non hai antenne come che apparato non ne hai, è poco ma sicuro. Io Giuseppe lo sento piano piano, per lui ha detto che mi sente. Figurati se piazza questa antenna qui, qui c'è una Grand Play ed è come che io uscivo con l'antennino, pochi baravi. Solo che io ce l'avevo attaccata alla finestra, ce l'avevo quell'antenna della macchina, adesso me la rimetto in macchina quella lì. Anche io l'ho avuta la Grand Prix da Giovanotto, dai. E comunque qualche soddisfazione me l'ho tolta, guarda che ci sia un bel palo che sia libera, anche lei già spara, Ripendi Marco. Eia. Io stavo decidendo se mangiare adesso o mangiare più tardi. Vediamo un po'. Ho chiuso la finestra perché era aperta, come volevo oggi dimostrare. Però c'è freddo in questa stanza, c'è poco da fare. Mi metto la giacca, dai, mi metto la giacca. Perché ci tocca accendere il riscaldamento di nuovo, no? Cosa dici? No. Se no il colmo è. Poi Medea ci ringrazia. Vediamo che non ci tocchi accenderlo veramente. Ma comunque questo presidente c'è bene, lo dietro. Sì, è un po' più robusta, la modulazione è grossa, io ascolto meglio, in base alle mie orecchie, ascolto meglio l'altra, perché è leggermente più acuta. Io ho capito, c'ha molti bassi l'MB+4, però purtroppo il tono non se ne può regolare qua, e vabbè, lo useremo per fare ciabot. Ma è tranquillo, per quello ci riesci. Chi è che ha detto Medea ringrazia? Io, se ci colleghiamo, se attacchiamo di nuovo il riscaldamento. Qua più che altro Pisto Rossi ringrazia, perché io uso le bombole con la stufa, cioè le stufe con la bombola dentro, capito? Non abbiamo il gas di città, non l'abbiamo voluto mettere. No, io prima andavo a bomboloni e sinceramente sono rinato perché non duravano niente quelle bombe, poi costavano anche un pacco. Prima mi ricordo le ultime le ho pagate o i 50 o forse 60 euro l'una e duravano tre giorni. Oh, le bombole da 10 kg o 15 kg, noi usiamo le bombole da 10, certo dobbiamo usarlo con parsimonia, dobbiamo usarle con parsimonia le stufe in inverno, però sai, e poi abbiamo una stufetta Zibro, che però quella è troppo forte e non lo usiamo quasi mai, solo col freddo estremo. No, io ti parlo di caldaia, quindi per scaldare la casa ci volevano bombole ogni 3 giorni, ma bombole da 25 kg, quelle grandi. Ah, ho capito, io manco le conosco quelle, figurati. Le grandi, bomboloni grandi, ci sono anche da 60, ma quindi non fa a mettere sul terrazzino. Quindi come è passata Medea, io prima di fare gli scavi avevo già fatto la domanda, quindi paghi perché paghi, però la comodità è enorme. Eia, qua dovremmo sfasciare tutti i muri per far passare i tubi. No, abbiamo lasciato stare, ci teniamo le stufe a gas, finché esisteranno le bombole, dal bombolaio ci terremo le stufe, poi si vedrà. Sì, dai, non devi distruggere niente, cosa devi distruggere? Una traccia, ormai i tubi passano anche nel battiscopa qua, se vuoi. Ehi, è che devi sfasciare mezza casa, non fa, oh, poi i costi, ciu. Va bene, vai Claudio. Claudio. Sono qua, è un attimo, sono qua. È il telefono. Come mai? Chi è che è appassionato di fornellini, tu o Marco? Ah, sì, ne stavo parlando con Natalino ieri. Poi quando ci fanno scampagnate e roba del genere, no? Fornelli a gas, vabbè, il migliore, però è un po' più ingombrante. Poi c'ho un fornellino tipo trangia ad alcol, puoi mettere anche l'alcol denaturato, solo che fa più odore brutto. Poi ho un fornellino a combustibile solido, quelli tipo razione K militare, no? Quelli di metallo che si piegano, te li metti nel taschino, non so se è presente. Sì, no, l'altro giorno, l'inverno scorso, ne abbiamo inventato uno seguendo delle basi da internet, non so se conosci il fornellino, quello pirolitico, la pirolisi, quel fenomeno, diciamo, chimico. Sì, ho visto vari video, poi vabbè, combustibile solido, poi ne ho preso uno appena arrivato da Italia Militare, che ha la stessa forma di fornellino tipo l'azione K, però ha una vaschetta per l'alcol in gel, è un combustibile in gel a base di alcol, faccio lavoro. Poi avevo preso dalla Cina e mai usato un fornelletto a, come si chiama, gasificatore, che usa legna, però se usi il pellet la combustione è ottimizzata e brucia che è un bijou, e proprio brucia i gas anche di combustione del legno stesso, gasificatore lo chiamano, poi è un fornello volgare. Sì, è quello che abbiamo fatto noi, con due barattoli, uno dentro l'altro, con i fori fatti calibrati, ci abbiamo messo un po' a tararlo, però poi andava che è una meraviglia, una volta che si innesca quel sistema lì di pirolisi, scalda di brutto. Non l'ho mai usato quello della Cina, c'ha dei fori sotto per far passare l'aria, sia nella vaschetta dove metti il legno o il pellet, col pellet diciamo la combustione è più uniforme, molto più uniforme, e c'è proprio la pirolisi completa, perché dai fori che ci sono vicino all'imboccatura sopra vedi proprio le fiamme secondarie del gas bruciato. Ho pagato poco, 15 euro. Bellino, non ho avuto occasione di usarlo ancora, perché anche a parte che è anche troppo forte, perché sviluppa un kilowatt alla bocca e fa una fiamma anche alta, quindi se metti una pentola piccola la fiamma esce dai lati, ci vuole una bella padella larga per usare quello. Insomma, credo di averli menzionati tutti. Poi ho visto una cosa di cui non ero al corrente, poi su YouTube ho trovato molti video. Ci sono anche fornelli, o mini fornelli, a cherosene, capito? Sono dei veri e propri fornelli. E ce n'è uno dalla Cina, costa 16 euro. È bellino. Praticamente hanno 8 stoppini, 6 o 8 stoppini. Come tu alzi gli stoppini, li dai fuoco con la con fiammifero, quello che hai, poi chiudi un cilindro di metallo che c'è intorno e si forma in questa fessura la fiamma azzurrina tipica della combustione del cherosene, e lo puoi usare per cucinare, insomma. E ne ho viste varie, con 8, 12 anche stoppini, cilindri ci sono, no? Sembra un mini reattore nucleare, se tu vedi la foto. No, sono belle storie, che io mi sono appassionato, in quel periodo lì ero molto appassionato, finché non siamo riusciti a ottenere la bella fiamma perfetta non abbiamo mollato. Adesso poi ormai è lì sopra un tavolo e l'abbiamo provato col pellet, comunque dai. Vabbè, vediamo se è rientrato Claudio, se no riprendi Natalì. Ancora no. Poi allora, pregi del pellet, assenza di fumo, proprio assenza di fumo, perché sai, quando metti legno così preso da fuori, tra corteccia, impurità, fa fumo, questo non ne fa col pellet, cioè. E in più non, praticamente non puzza quasi, perché la combustione è talmente pura che non senti nemmeno puzza di legno bruciato. Guarda, è un bijou. No, io sono rimasto a bocca aperta, sbalordito, perché lo puoi usare dentro casa tranquillamente. Se lo fai in dimensioni grandi, ti scalda una stanza tranquillamente, con una manciata di chili di pellet. Sì, sì. Poi guarda, ci sono molti sperimentatori che si autocostruiscono anche il fornello ad alcol, con le lattine della Coca-Cola o della birra, e più o meno vengono bene. Io vabbè, l'ho comprato fatto, perché già lo sai che non sono molto pratico, e l'ho comprato fatto, il classico Trangia color oro, color bronzo, no, color oro è, con i fuorellini già fatti. Ho provato, prende subito e fa la fiammella. Una sola cosa è che se usi l'alcol denaturato, quello rosa, fa una puzza di alcol di ospedale e non ne può più. Se sei schizzinoso e non vuoi sentire odore, devi mettere l'alcol per liquori, quello a 95 gradi, solo che costa un occhio della testa. E oggi quello te lo vedono a prezzo d'oro proprio. Hanno visto che la gente lo usa parecchio per fare limoncino, nocino, cose varie, e quindi subito hanno salvato il prezzo, già parecchi anni. Sì, che poi guarda, un litro di alcol puro per liquori ti dura un bel comunque, ti dura un'eternità, perché bastano pochi millilitri per far funzionare il fornelletto. Ma io guarda, tutto mi sarei potuto aspettare, ma vedere un fornelletto a cherosene, mai visto. L'ho visto, costa 16 euro, è piccolino, è una cosa larga tipo 15-20 cm per 20 di altezza, ma deve essere una bella bestiolina, sono curioso di provarlo. Quindi il prossimo investimento è quello, e poi se c'è la passione, dai, ti piace, prendilo piano piano. Odore non ne fa il cherosene, perché è un po' puzzolente come combustibile. Sì, immagino che all'inizio faccia un po' di odore, però una volta che la fiamma si stabilizza, comincia a diventare azzurrina, non dovrebbe puzzare, come le stufe, no? Che all'inizio fanno odore le stufe a cherosene, poi si stabilizzano dopo pochi minuti. Spero che non puzzi, dai, spero che non puzzi, se no pazienza, me lo tengo come soprammobile, ma è così carino, sembra un mini reattore nucleare, una cosa un po' strana. Anche quello che abbiamo fatto noi, il pirulitico, alla fine c'è una specie di turbina, perché per dargli, diciamo, l'impronta alla rotazione, diciamo, alla fiamma, abbiamo fatto delle alette rivolte verso l'alto, una specie come un reattore di un aereo. Ah, sì, sì, tipo vortice, tipo turbo, sì, sì, bellino anche così. Molto carino. Avanti Valerio, e tu? Ti interessi di queste cose? No, non è che mi interessi tanto. Eppure a te piace la vita all'aria aperta, credo di aver capito, no? Sì, mi piace molto, ma non fare, cioè, piace quindi fare delle escursioni, no? Però non stare lì a mangiare, a prepararmi qualcosa, capito? O, diciamo, portarmi il fornello e il soffletto, o del genere, no, quello. Per me è un po' complicato, capito? Non è che... sei per l'istruzione, ma non fare lì con la tenda, capito? Mi romperebbe un po' le palle. Sì, no, ma anche senza tenda, va, basta un mini zaino, ci sta fornelletto, cibo, acqua, tutto, tutto quanto. E perché sai, uno dice, ma che bisogno c'è di cucinare? Mi porto una barretta energetica e ho risolto. Ma vuoi mettere il gusto della barretta energetica con due uova con la pancetta? Non c'è paragone. Certo, certo, no, quello è proprio, cioè, non deve essere qualcosa di più, diciamo, più impegnativo, allora sì, perché no? Però sempre in compagnia, perché da soli è uno spazio. Vabbè, ma c'è anche chi va solo, mi. Molti youtuber ho visto che vanno soli, si fanno i video. Magari sono chiusi come carattere, non lo so. Natalino, vai, riprendi. Via. Cosa riprendo, mamma mia. Adesso che hai l'antenna puoi fare tutto, puoi anche mettere portante. Adesso ti metto la portante per divertimento. Non abbassare tanto, altrimenti poi non ti sento più, mi Natalino. Come facevano con Falcone, così. Quella che si chiamava la grattugia. Sì, grattava nel microfono. Che... Peloso sei. Marco, peloso sei. Wow, la verità, non molto peloso. Anzi, se potessi mi raderei tutto come ciclisti. E sul petto sono una bambola. Che bello. Caro caro. Invece se guardi mio zio sembra un uomo scimmia, tutto peloso davanti, dietro, sulla schiena, sembra una scimmia sembra. Ma se fossi stato così avrei fatto una cura per depilarmi, perché non servono a niente gli uomini, cioè i peli su un uomo del 2000 e più. Fossero primitivi, posso capire, lo usavano anche per scaldarsi, ma così no. Sì, anche io c'ho qualche collega che non sa chiotto proprio. Tu li vedi a volte anche d'estate, li escono fuori dalla maglietta, da tutte le parti. E poi in estate non ti abbronzi nemmeno se c'è tutto quel pelo. È probabile, non lo so. Eia, no, io sono contento di, insomma, di non essere molto... Però poi mi raggio anche sotto, perché ormai dice che le ragazze si raggiano, anche nei film sozzi si vedono, tutti rasati sono. Non è più come nei film degli anni 70 dove vedevi tutto il boscame, no, adesso sono tutti rasati. E adesso domani mi raggio tutto. La mosca e basta, una pesciolina e boh. Non sia che trovi qualche ragazza schizzinosa, mi voglia liscio tipo bambola. Meglio non rischiare, no? Non fatela perdere. Ma guarda, io ero stato rasato in ospedale quando dovevo fare l'operazione ai calcoli. Ti dico, era una cosa comica. Sembrava un pollo spennato, ecco, detta così proprio. L'ho fatto anch'io l'intervento, cosa hai fatto? La litotrisia? Esatto, ureterolitotrisia, però dice che nonostante sia col sondino è meglio rasarsi. Sì, sì, l'ho fatto anch'io qualche, non so se 3 o 4 anni fa, un brutto ricordo ho avuto, stavo impazzendo con i calcoli. Guarda, io ne avevo uno da 13 mm piantato nell'uretere sinistro. C'è un canale che va da vena alla vescica, 13 mm il diametro massimo. E alla radiografia sembrava un proiettile, un calibro 50 sembrava natalino. E insomma, vabbè, adesso sono all'avanguardia, non aprono più, entrano da lì col sondino, c'è tutto, telecamera, luce, laser, cia cia cia, e fanno tutto. La cosa più brutta, è quando ti devono levare lo stent dopo un mesetto, lo stent WG che mettono per fare passare meglio l'urina, e vedi arrivare il medico con questa cannula d'acciaio lunga mezzo metro, poi mamma mia, mamma di turchi, e lì bisogna stringere i denti e girarsi dall'altra parte. Sì, sì, mi ricordo tutto. Mi sembra che mi avessero dato un rotolo di gas, mi sembra, per i denti, perché è tutto senza anestesia, tutto senza anestesia. Mi ricordo ancora, si vedevano le pareti della vescica, l'ha acchiappato e l'ha strappato fuori, vabbè, dai, lasciamo perdere. No, guarda, io non ho voluto guardare. E ti dirò che io ero talmente impaurito che prima di andare all'ambulatorio mi ero preso un'ora prima o due ore prima un Tavor da 2,5 per sballarmi, perché così ero mezzo drumido e diciamo l'ho sopportato. Non era doloroso però, devo dire che era fastidioso ma non doloroso, dolore non ne ho provato. E poi mi ha fatto vedere anche lo stent, no? Di colore azzurrino, con quei due ricciolini all'estremità. Poi ho notato una cosa nella vescica, ho detto, e questo cos'è? Ah, dice, è un diverticolo, avevo un diverticolo in vescica praticamente, cioè tuttora sicuramente ce l'ho, e non lo sapevo. Hai capito, no? Io non mi ricordo solo le pareti, si vedeva il sistema, diciamo, vascolare, capillari, dai, si vedevano, basta. Poi nello stent addirittura si vedeva anche la marca, c'era qualcosa scritta, mi ricordo, nel WJ, finché poi non l'ha acchiappato, ma mi ricordo addirittura uscito anche del sangue, per qualche giorno usciva anche il sangue, quindi un po' di male me l'ha fatto. Diciamo che quando vai in bagno, appena ti tolgono tutto, c'è uno sbuffo di sangue incredibile, perché giustamente è acciaio contro mucosa, quindi figurati. No, però si è chiuso quasi subito, è tempo, due giorni l'urina era proprio limpida, meno male, però dover ripetere la cosa è un po' ostico. Poi sai, quando ti tolgono anche il catetere, no? Mi distrago, dice, mi prendi quella cosa che c'hai dietro, io mi giro e quello stra me l'ha sfilato di colpo, perché mi ha visto teso, capito? Mi ha distratto un attimo e me l'ha sfilato. Per mollare un po' il sistema nervoso, il sistema muscolare. Sì, sono brutti ricordi, la verità. Io con i calcoli ci soffro, è anche un po' ereditario, perché mi ricordo da giovane anche mia madre soffriva di calcoli. Poi io bevo anche poco, purtroppo bevo poco. Beh, io diciamo per l'acqua bevo abbastanza, ma non abbastanza. Loro dicevano beva 3 litri al giorno e così mi esce anche delle orecchie. Dai, chiudiamo questa parentesi, io l'ho fatto, mi pare, fine 2008, inizio 2009 l'operazione. E giustamente non si apre più, non si taglia più niente, adesso c'è questo sondino, è diventato una cosa molto poco invasiva, dai. Ho detto, la seccatura è lo stent, il WG quando te lo levano, e lì io vabbè ero diciamo rassegnato, dai, poi con l'aggiunta di quel piccolo calmante ero un po' sedato, dai. Sentivo tutto ma ero sedato, mi giravo dall'altra parte, poi anche la posizione in cui ti fanno mettere, che diciamo un po' sembri una donna partoriente, dai, insomma. Poi bello che c'era non solo il medico maschio, c'era l'infermiera, ma è strano che mettano un'infermiera presente quando fanno l'operazione, quando fanno quella cosa all'uomo, che levano lo stent, no? Sì, sì, mi ricordo anch'io che c'erano delle donne, ma ormai non fa più caldo nel freddo, ormai anche loro ne avevano visto tutti i colori, penso. Adesso dovrei tenere, tenere sotto controllo i calcoli. Purtroppo è morto da poco il mio, come si chiama, radiologo di fiducia, radiologo, come dire, Vincenzo Migaleddu, in via Gorizia, a un passo da 100 metri da casa ero arrivato e facevo ecografie lì per i reni, quello fa tutto, radiografie, TAC, risonanze magnetiche, e purtroppo è morto 2 giorni fa, pochi giorni fa in macchina, l'hanno trovato morto, sicuramente il cuore. Sì, mi ricordo, vabbè, comunque lo studio non penso che venga chiuso, ci sarà qualcun altro, vediamo se è entrato Claudio, ci sei? Tutti spariti, no? Natalie. Ehi, già ci sono. Chissà Claudio cosa sta facendo. Al telefono mi sembra che era. Sì, non dico. Quelle sono le telefonate con i colleghi, con i colleghi di lavoro che lo assillano. Sì, non glielo auguro, dai. Marco, ascolta, Natalino si vuole depilare, però c'è un problema, che io voglio un uomo e una donna, tu cosa ne pensi? Aspetta, non ho capito la domanda, si vuole depilare, però qual è il problema? Il problema è che io voglio un uomo, non una donna. Ma anche se non ci sono i peli, già c'è quello che interessa, diciamo, e l'uomo resta uomo. Non ci credi lì? No, io voglio uomo, non donna. Vabbè. Guarda, anche i porno attori si depilano, eppure sono uomini, e che uomini. Oh, Marco. E io poi rilancio un Valerio. Dimmi, fra. Hai visto, hanno fermato il posto di blocco, mi sembra, come si chiama l'attore? A Rocco, perché dice che c'era il braccio fuori dalla macchina, e lui ha detto guarda che non era il braccio. Mamma mia, lì siamo lì, vedi, lui non ha nulla, è bello rasato, però c'ha la proboscide, c'ha la terza gamba, vai Valerio? Non c'è più, forse l'abbiamo lasciato troppo in bianco, oppure stavamo parlando di cose sensibili e non gli è piaciuto, dai. Sicuramente. Eia. Caro Natalino, il mondo sta cambiando. Vabbè che io sono grande, cioè non sono un diciottenne che si deve rasare, non me ne fotti nulla. Tanto non sto nemmeno più trombando, quindi cosa mi raggio a fare? Ma per pulizia, dai, più facile da lavare. Come i capelli, quando si rasa, si lava la faccia e si lava anche la testa. Io ai capelli però non ci rinuncio, anzi, poi io ho una zona tipo Falcone, quindi se mi rappo a zero sono molto brutto, già sono brutto così con i capelli. E a volte è tutto abituato, poi una volta che abito allo specchio ti vedi bello anche senza capelli. Non lo so, non credo di essere adatto però, Anzi, io i capelli certe volte li tengo anche troppo lunghi, un po' alla Little Tony, non dico proprio uguale, ma ogni tanto piglio la macchinetta, quando viene la crisi, la macchinetta, quella taglia capelli e li accorcio un po', però sempre li tengo, dai. No, io già qualche anno li sto tagliando, a volte non a zero, però molto corti. Via. Claudio, ancora innamorendosi al telefono. Ehi, aspetta, telefonata lunga, Ti rompi il palle con lei. Sì, indovinato, Sì, guarda, quando lo trattengono sono sempre i colleghi a rompere le scatole. Aspetta, le sto dettando una relazione, aspetta. Ehi. In pratica quando Claudio non è lavoro è lo stesso lavoro, Sì, bisogna dargli qualcosa in più. Lui lavora anche da casa, sta lavorando da casa, quindi un incentivo è meritato. Sì, qualche indennità gli spetta sicuramente. Lo stomaco mi chiama, un po' di famina mi sta venendo, mi sa che mi mangio un po' di pesce. Poi ho trovato una salsa, come si chiama? Salsa non tartara, un nome che va bene sul pesce, ha un nome strano, forse francese. No, non ce l'ho presente. Una tartare. No, adesso te lo dico, aspetta, che c'è la foto della salsa sopra il pesce. Un attimino. Adesso fa venire la fame anche a noi, stai. Scusa. Adesso fa venire la fame anche a noi, io sto già sbadigliando. Mami. È già da mezzogiorno che non mangio, sono già 6 ore, cavolo. Allora, si chiama salsa bernese, che praticamente è una maionese fatta con, credo, capperi sminuzzati, verdurine sminuzzate, non vedi queste cose sminuzzate dentro. E sul pesce è molto buona, è come un po' la tartara, che è simile, dai. Guarda, se tu mi dai il merluzzo è buono, ma se tu mi dai il merluzzo la maionese è la morte sua. La salsa bernese stai dicendo? Ehi, Antali, lì è scritto in francese, bernese, ma è quella. La bernese è quella. Però se ci sono i capri, poi sicuramente è molto saporita. Aspetta, non ti ho copiato, devo alzare il volume. È che c'è Natalino troppo forte in radio. E Valerio più Franco più basso, e quindi lo sta l'alza bassa. Come ero io prima, quando c'era Alghiero e voi lo stesso, ma mi rompeva le orecchie Natalino. Eia, e infatti certe volte, come avevo detto a Claudio, anche alzare troppo il volume, alla fine cioè, senti uno più basso, di stare alza bassa, col volume, dai. No, ho alzato un po' adesso, dai, tanto qua disturbo non ne faccio in casa. Bene, quindi oggi mi tocca pesce con salsa bernese. Vediamo com'è. Sì, già sarà buono, ripeto, mi sta già avendo fame anche a me. Diciamo che il barattolo, ho letto la data, è leggermente scaduta, fine 2006, però sai, siccome è roba sigillata, proprio tenuta d'aria, è sicuramente ancora buona. Poi appena l'apro la tengo in frigo e la consumo in breve tempo. 2016? Sì, 2016, fine 2016. E a volte preferibilmente dicono così, oppure è proprio la scadenza secca? Ma di solito aumentano preferibilmente, cioè fino a tale data il produttore ti garantisce proprio la fragranza del prodotto, la freschezza, poi comincia piano piano a perdere per esempio le specifiche, ma quella proprio è stato vuoto, quindi non c'è problema. Poi l'assaggio prima, certo, se è acida non la metto. Sì, se si sente il naso poi è la prima cosa che lo avverte subito. E poi Marco con quel naso che ha, già lo credo che la sente. Ma diciamo che non è un naso molto grande, ma è un po' storto, perché una volta con una rissa per colpa di donne uno mi ha dato un pugno ed era un pugile. E tende a destra, capito? È leggermente storto verso destra. Avrei dovuto metterlo a posto, ma non l'ho mai fatto, perché ho sentito che, vabbè, sei in anestesia, però con uno scalpello ti rompono il naso, tutte e due le narici, no, tac, poi ti mettono queste cannule lunghe con le garze e te lo tieni dritto, dai, finché non le levi. No, ma perché non ti ricordi chi era quel pugile? Cioè, non pugile, diciamo che faceva pugilato, era un ragazzo che faceva pugilato, ma non un pugile vero, sennò sarei morto a quest'ora. No, dico, per rimetterlo a posto. Ma lui era pugile destro, mi ci vuole un pugile mancino per addrizzarlo dall'altra parte. Ah, così, ma la sorte, quindi sono bravi sia a destra che a sinistra. Eia. Cioè, un po' si nota, nelle foto si nota molto, perché la foto è diversa dall'occhio umano, no? Che vede in stereo. E quindi, vabbè, c'è il setto deviato un po', c'è un setto nasale, una narice un po' deviata, quindi migliorerebbe anche la respirazione. Dai, vediamo, dai. Ah, quando ci vediamo già te lo faccio io l'operazione, se non mi dico. Bucato il vento perché ero senza cinture e quindi anch'io ci ho deviato il setto nasale. Una mazzetta, mi Natali, con la mazzetta e l'ammonatore, un bel colpo al naso, vedrai come si raddrizza. Eia, eia, eia, e vabbè. Una volta dicevamo tra amici, conoscenti, potevamo fare il club di nasi, uno un naso lungo, uno un naso a becco, io un naso non bello comunque come naso. Ah, beh, il setto deviato, ma io sono tutto deviato. Io mi sono abbandonato, dai. Ah, Nathalie, come dice coso, sessualmente deviato. Anzi, quello no, quello no. Povero Pomponio adesso, invece parlando di altro. Lui adesso è... mi ha mandato un messaggio ieri, poveraccio, dice sono in clausura, deve badare tutto il giorno al fratello che è allettato e poi di notte fino alla mattina ci pensa la sorella. Quindi ha detto che gli manca già il baracchino, lo sai Nathalie, gli manca il baracchino, ha detto di salutarvi tutti. E a me stasera mi ha detto imbarrato. Ah, guarda che si è messo l'antennino, si è messo l'antennino piccolo da barca a casa di suo fratello, in modo che ogni tanto può entrare a modulare. Capo, l'ho sentito stasera, ma adesso si chiama il nipote imbarrato, ma fatto. Pomponio, ci sei l'ascolto? Eccomi qua, sono io, dai. Soltanto tra le balle. Ho detto, Claudio, ti devono dare un incentivo perché tu lavori anche da casa, a quanto pare. Sì, sono reperibile anche. Quindi stavo comunicando alcuni dati che mi sono preso stamattina. Sì, stavamo parlando di tutto, di operazioni chirurgiche, di deviazioni, di cazzotti. Non riesci a che ho abbassato il volume. Io Nathalie, riprendi un po' tu, parla un po' tu, che se no mi si asciutta la bocca a parlare sempre. Sì, iaia. Ieri a Claudio gli ho fatto vedere quello tutto nero. Sì, tutti e due neri, quello lungo e quella corta. Sì, a tutti e due gli ho fatti vedere. Sono quello grande, micidiale, che bello che è. Ma la quella corta è più comoda, si può occultare più facilmente. Non so, però quello là è bello, bello veramente. Ehi, anche il mio ex amico ne aveva uno bello, mi di fucile, che usavano quando lavoravano, le Baracelli, e poi se l'era venduto, non so, sta sempre comprando e vendendo, e quindi gli è durato un mese, poi l'ha rivenduto. Era bello anche quello, era mi pare Norica, Norinco, com'era? Norinco mi pare. Non so. E mi Natalino già le conosce quelle marche. Io c'avevo la carabina ad aria compressa, Norica, quella ragazzo che era potente. Eia, mi le Norica le vende Brandis, in via Budapest, le carabine Norica, belle però, vabbè io una ne avevo, non l'ho più usata la mia mi. Quella liberalizzata, non l'ho più usata, perché tanto col piombino puoi fare danno, mentre col soft tire spara pareti in plastica, puoi sparare quanto vuoi in casa al bersaglio e non fai danno. Invece quella piombino magari ti buca il bersaglio e buca la testa al gatto che c'è dietro. La mia ha bucato la gabbina in lamiera, buccata, a me dà anche la botte in questa carabina. Cazzo. E lo so che le vende Brandis, anche la calibro 22 l'ho comprato da Brandis. Quella americana, quella non l'ha vista Claudio, quella col cannocchiato. No, mi hai fatto vedere quell'altra. Sì, c'ho la beretta piccolina pure. Quella è bella ragazzi, più vecchia di me. E comunque sono belle cose. Belle cose. Cosa c'è figli? Cosa c'è? Aspettate un secondo che mi allontano, vi prendo il fatto. Sì. Anch'io dovrei avere una carabina in campagna, una Diana, una 4,5, una Funghetti. E c'era una bella gittata lì, Marco. Ci sei, Marco? Si sta spostato, fra. Ogni tanto mi preoccupo, ma si è bruciato tutto, giù. Ah. È che Marco si è spostato, adesso è pronto a mangiare, perché lui mangia a quest'ora? Boh, non so che uno non si vada a mangiare a quest'ora, ha delle abitudini, boh, pazzesche. Mangia tutte le ore, mi sa. Te l'ho detto che sono tutto deviato, anche negli orari del cibo. Comunque metto la maionese, non la metto la bernese, metto la maionese che è già aperta. Forse vai letto. E poi quelle carabine, alcune si possono anche modificare per aumentare la potenza. Sì, però se ti trovano con una di quelle modificate ti fanno più cosa che se ti trovano con un'arma vera senza popolare. Sono micidiali, Meglio lasciarle normali. Guarda, quella l'unica che avevo io, quella 4,5, come quella stai dicendo tu, era di libera vendita quella. Beh, c'aveva una gittata spaventosa, ho bucato la lamiera zingata della gabbina, figurati. Ci sono certi piombini, gatta, che guarda, sono paurosi adesso per quelle carabine lì. Sì, ci sono quelli a punta, quelli viaggiano di brutto, viaggiano, piuttosto che quelli a testa piatta. No, mi ricordo una volta stavo sparando qualcosa in campagna e ho fallito il bersaglio e è andata a finire un bel lontano e ho sentito il rumore dalla finestra di mia nonna su. Ah, una troppa amata mia nonna, cioè sicuramente non le avrei fatto niente, però intanto ti becca un occhio, ma ti dà problemi. Infatti, sono pericolose quelle a piombini. Infatti ci sono quelle che sono col portalarmi e quelle che sono di libera vendita. Quella che avevo io era la più grossa di libera vendita, aveva una battenza, anche lì in culo dava, quasi un fuoco quando giravi. Secondo me quella l'hanno fatta passare così, ma aveva una potenza, non penso che fosse. Io l'ho comprata nuova così. Ma di quelle libera rigiate era? Molto pesante come carabina. E avevano messo anche mi ricordo anche il cannocchiale. Ecco, col cannocchiale pure non c'era più gusto perché ogni cosa che sparavi la prendevi. Infatti una volta che tarato, sì, di libera vendita era quella l'unica che avevo io, però aveva una potenza paurosa. Sì, mi ricordo che dava un minimo di contraccolpo, lo dava quando scattava la molla, là. Sì, ma pensa che mi pare, ma qual è il massimo di potenza che esiste? Esiste la Diana 75, mi pare di simi. Non lo so, io questa qua era 4,5, penso che fosse libera vendita. 50 che è mostruosa, però non lo so se c'è la 75. Ma là si dice, Ma quella buca la testa delle persone, quella è tremenda. La mia era una Gamo liberalizzata sotto i 7,5 Joule, era una Gamo, non mi ricordo il modello, carina, tipo Diana, molto ben rifinita. Il cannocchiale anch'io l'ho tolto perché non mi piace, preferisco mirare con le tacche di mira fluorescenti che c'ha. Sì, anch'io poi alla fine l'ho eliminato. Io ce l'ho montato quel cannocchiale sulla 22, però quella è mostruosa, la carabina, chi si abballa a Maragiugi. E peggio che mai se metti un 5,56 civile, preso civile, un 5,56 a bottiglietta, quello ti fa 1000 metri, vabbè 1000 magari no, però caspita, mostro. 5,56 non è a uso civile, è a uso militare, capito? Perché sono 5,56. Praticamente sarebbe il 223 Remington. No, ma guarda che c'è anche una versione civile. Se quello militare 223, mi pare c'è un civile che si chiama tipo 221, una cosa del genere, però c'è. L'avevo visto sul catalogo. E poi non cambia nulla, la potenza è la medesima. Quella, caspita, mostro, mostriciatto, bisogna stare anche attenti. Ho visto gente, per esempio, cacciando al cinghiale, magari non 5,56, ma era 7,62. Caspita, con le carabine a cannocchiale, vedi vedere come te lo buttava giù. Caro Guido, io ho provato il 5,56, l'M4 5,56 ho provato. Cavolo, precisissimo, casuale, è una cosa micidiale. Col Red Dot l'ho provato, quel 5,56. Poi ho provato il 7,6, il Kalashnikov 7,62 per 39. Eia, a me piacerebbe l'M4 A1, oppure senza A1. l'M4 anche senza quella mira, la maniglia sopra me. È una bella bestia, mi guarda, quello che c'ho, ti avevo mandato la foto, per soft air veramente bello. Peccato che non ci sono mai andato, ma sembra un'arma vera, se tu la porti in giro, cazzo, ti arrestano subito. Cazzo, al campo nostro c'è il nipote del mio istruttore che fa soft air e vengono tutti bardati, vestiti da militari, gatto, e c'hanno queste armi così. Grandi vizi, già. Quello era bello, perché molto, molto, molta azione c'è con quello sport lì. Solo io, per come sono fisicamente, non riesco a correre, saltare, fare tutto quello che fanno loro. Guarda, per me sarebbe meglio fare il cecchino, che sei nascosto in una posizione e chi passa lo tiri. Quello sì. La posizione del mandrone. Ehi, a me è arrivata la pappa, dai, e dopo mi lascio con il pompaniere Claudio, se c'è ancora. E allora, no problem, vai, magna e torna. Dai, buon appetito. Anch'io tra un po' mi devo assentare un 5-10 minuti e poi ci risentiamo. Ok, già siamo qui in ascolto, va. Via, però la mangiare già. Già l'ho capito, sta studiando la mangiare a più. Filippo, mi metti una signoriana, mi? Lontano, non tanteggio. Salome. Signor Divisio di Coraggio, Massimiliano, lo vuoi vedere? Claudio, ma porti un giorno a vedere questo Filippo? Già ti porto io a vederlo, qualche giorno ve lo porta. Se non parlo io non parlate più, così è. Andando a mangiare il cane, Claudio, Franco si è assentato. E Natalino sta facendo il bambino. Cane di più luci, sì. Cazzo, non c'è nessuno stasera. Ma è presto ancora, che ore sono, Natali? Ci sono le 6. E magari sono le 18.30. Oh, 6:30. Caspita. Beh, l'ora mia è che mangio, dai. Comunque, questo non è merluzzo oggi, questo è pangasio. Sì, vabbè, mangia avanti. Com'è bello far lavoro a te. Sì, avanti. Ciao, Natalia. Ehi, buonasera. Come mai così basso? Non è il segnale di ieri, cos'è abbassato? Sto usando un altro apparecchio, il President Lincoln, questo è. Mi piaceva più l'altra modulazione. Come? Mi piaceva più l'altra modulazione. E vabbè, cambiamo, non c'è problema se ti piaceva l'altra. Questo c'ha un MP4 da tavolo, capito? È diverso. Ecco, no, forse come è la distanza, prima stavi strappando, adesso eri chiaro, forse ti devi staccare un po' più dal microfono. Guarda, adesso sono distante la lunghezza del braccio. Guarda com'è. Così è 10. Per me è 10. Va benissimo. Capito, forse eri troppo vicino prima. Ero vicino in effetti, sì. Non mi ricordavo che bisognava parlare lontano con l'MB+4. No, questo va benissimo. Va proprio bene. Via via, anda bene Nera. Ciao Eugenio. Ciao Marco. Non ti strozzare mangiando, mi raccomando. Il gallo con l'eco, non l'avevo ancora sentito, Bene, beh, cosa ti credi che ce l'hai solo tu, quell'eco? L'eco. Chi c'è Marco? Attento Eugenio, se ascolti qua. cambiato il giorno e la notte. Vedi che ce l'ho anch'io, l'ecco. Ma chi ha più schiacciata portante, se no lo... se no lo fa. Già lo so, ma non mi piace tu con troppo eccomi. Va bene, va bene. Ma Claudio, se l'ha mangiato il cane? Non lo so, Quello è capace. Sono al telefono. È torra. Torna, questo telefono, buttalo via. È torre, se buttalo da lì che da 40 metri vedrai come arriva a terra, si disintegra. Non posso riazientare. Ah, si rotto quasi che bada, giusto. Siccome lui ha la reperibilità, lo asilano sempre per formazioni, dati, capito? Lo asilano sempre di giorno. Ma di notte lo deve... Adesso bene va il segnale, UG. Sì, a 5. Gama, gama. Eugenia. Sì, a figlia del luce. Chi è entrato? Uno che stava chiamando a Eugenio. Ehi, con la voce, avanti. Eugenio. Chi è avanti? Avanti. Che il suo canale è un mortorio. Avvisato, Denisi. Ehi, certi giorni c'è questa, vabbè, io sto mangiando, per cui... Ma prima già stavamo parlando. Io forza, scendatevi. C'è che chiama Eugenio, avanti. A pigliarla. Eugenio, dove eri a Pasqua, a Pasquetta? Non mi ricordo. Eugenio. A casa. A casa eri. Non stavi andando tipo Castel Sardo? No, cos'è che mi avevi detto? Che stavi andando Castel Sardo, che di provare fin dove arrivavi. Il giorno di Pasqua sono stato mezz'ora, poi sono restato a casa. No, tu hai preferito passartela così, credo. Io ho detto, sì, col camper andrà in capo al mondo, andrà. E invece niente. No, mia moglie stava lavorando, ho capito. Ah, ho capito. Ah, io che chiamo Eugenio, stavo che Eugenia. Vedi, non c'hanno coraggio di entrare. Sarà che coglione. Arriva anche passo qua. Ah, qua arriva a 8:30. Ogni tanto me. Qua è Natalina. Qua arriva a basso. Arriva a Santiago 5. Non è degno di notte. Peccato, va. Se fosse entrato Franco di Sorsa avremmo fatto le prove. Capito, Natalina? Mi avresti chiesto il controllo. E l'altro Franco che fine ha fatto? Franco c'è ancora? No, anche lui ha... dice si doveva spostare, forse cosa devo fare, boh. Si doveva sentare. Adesso ci sentiamo dopo. Evidentemente doveva fare qualcosa lì. È al lavoro, Franco. E via. Ah, ma cosa fa? Vigilanza, cosa fa? So che lavora alle ferrovie, ma non so cosa stava facendo. Buona sta banana, di quelle punte latte, mica, è dolcissima. Caspita, sai io che lavoro una banana dolce? Adesso mi sono rotto il camasisi. Ma qualche collega ti ha rotto il camasisi, ma glielo potevi dire, grandissimo cornuto. Glielo detto, ma come non è lui il cornuto, che sono gli altri, gli hanno detto di chiamare me. Infatti, adesso me devo vestire, devo uscire. Grazie, madonna, cosa allucinante. Non vi dico dove devo andare, perché vi viene nervoso a voi. Devi uscire tu, cavolo. Sì, devo uscire io. Non riesce a togliere l'allarme all'isola Rossa Porto. Ma io vado giù. posso andare all'Isola Rossa? Certo, se sono pagato per forza della donna. La che hai? Sì, stava meglio prima. C'è stata tutta la tecnologia delle balle. Io lo so che cos'è. Hai già capito? Io lo so che cos'è. Poi qualche topolino che c'è all'interno del caseggiato e mi manda il tint e la so del telecontrollo. Oppure è mancata la luce. Capite? Che palle. Io se vuoi l'Isola Rossa ti accompagniamo anche noi. No, è prima di andare a chiare a prendere l'elettricista, che l'ho già chiamato. Ci devo mandare un messaggio. Devo andarci con l'elettricista, c'è una cosa elettrica. Ho detto qualche fusibile una prima volta. Ce l'ho da lì. Non resetta. Sarà mancata la luce, se non ti arriva il segnale. E c'ho il allarme inserito con il livello in vasca. Avete parlato in due. Mi Pomponio, graziato ti hanno. Graziato? Ah, perché ero in galetta. Sono appena salita a fare la cena a Giampiero. Seglia. Sì, sta preparando la cena, così è, sì. Calla. Oi, mamma mia, ci mancava anche quella, Antone. Lo so, purtroppo è grave la cosa, non la vuoi dire. Ognuno ha croce sua, diceva quello. Come ho detto io ieri per quella sindrome che viene a me. Sì, vabbè, quello già altri due, un mese mariano, 3-4 giorni. Eh sì, diciamo che in una settimana circa se ne va il capogiro del tutto. E ora ti faccio, io mi avevo di collo l'altro giorno, peggio di te. Facevo la terapia, non sapevo neanche dove stavo andando. Claudio, sei andato? Vabbè. Spero che mi sia accesa la spia rossa, che forse mi sta rientrando l'allarme. Prega che funzioni. Io lo voglio funzionare, non ti preoccupare. Aspetta un minuto. Che palle. Aspetta un secondo. E già, te lo faccio andare io adesso. Altrimenti è una rottura di spalle andare di rami. Mamma mia. E cosa devo fare ora? Aspetta che lo sto resettando. Ma cos'è un telecomando tuo? Come lo comandi? Via web? Certo, c'ho il programma del computer di servizio, io faccio tutto da lì, timbro anche da lì, figurati. Ah, hai visto il progresso, eh? Non è la prima volta che va in allarme. Adesso l'ho resettato, vediamo, lo riaccendiamo. Vediamo se parte, se mi dà... Si è rientrato il livello. Sentite Marco cosa ha detto poco fa. Cosa? Un poliziotto si è sparato la pistola di ordinanza. Ha zitta un attimo. Alla basanta. Oh, notizia di pochi minuti fa. Ehi, lo sto leggendo su internet. Ha fatto solo bene. Avevo subito che comunico i dati del rientro all'armero elettricista mattino. Ehi. Oh, ci sentiamo dopo che sto scendendo giù un attimo, ciao. Ehi, ciao, Eugenio, dai. Dopo lo guardo. Vabbè, vuol dire che era depresso. Non c'è scritto nulla, non hanno nessuna notizia del perché lo abbia fatto. Nell'articolo c'è scritto quello. Propongo un suicidio di massa. E se che mi tocco. Vai a fare la risorsa, allora è suicidato Marco. Vista tranquillo che ti suicidano. Dove, Antone? Alla Corea del Nord, vai, da quello guasto di... come cavolo si chiama? Che ha minacciato di usare le testate nucleari. Vai lì, si incendia le cavogliucchi, ammazzami, come ha fatto con Fratello. Quello già mi bombarda, mi fa come quello lì, col fucile antiaereo mi ammazza. Quello già è mezzo scemo, vabbè, mezzo scemo proprio. Quello lo so cosa fa, ti attacca al missile e poi ti lancia. E ti manda direttamente in Giappone, è vicino. Ehi, già lo intercettano il missile di Tomahawk della nave. Altre due ne sono partite a portaerei, a me delle navi di viso, perché quelli hanno anche le scorte, no? Praticamente non è che va da sola la portaerei. Sì, c'ha delle navi di appoggio. E purtroppo speriamo non succeda niente, perché sennò inizia la terza guerra mondiale, così iniziano le guerre. Il Giappone è già in guerra con la Corea del Nord, vatti rugonto, ogni schiaffo alla Cina che gli ha dato. Ma perché ha dichiarato guerra? Ehi, il Giappone! Quello è già un brutto segno, mi. Ehi, brutto segno, mi. Bubu! Se non stiamo attenti, qua succede veramente la terza guerra mondiale. E se la biliamo tutti nel QSO, perché qui è un casotto. Ma dici che qua arriva qualcosa? Se si bombe magari no. Ma le radiazioni nel Mediterraneo? Non è quello il pericoloso, le radiazioni, so. Cazzo. Io già me ne vado a nuovo dentro una grotta. Leia, bisogna nascondersi in profondità sottoterra per le radiazioni, solo che poi non campi. Ci vuole un bunker con l'aria filtrata, ci vuole un filtro antiradiazioni, perché sennò respiri aria contaminata, no? Adesso vi faccio un bunker antiatomico, gatta, perché non si sa mai. Sì, ma ci vuole un bunker organizzato, ci vuole acqua corrente, ci vuole lo scarico fognario. Si dice che Cannetto, quel ricco che abita in via Nizza, c'ha il villone e il controvillone, si dice che si sia fatto costruire il bunker antiatomico. A Tirugontu, quindi la casa sarebbe sotto il bunker, così? No, la casa è sopra, è nel sottosuolo il bunker. Sopra il bunker la casa ce l'ha costruita. Vuol dire che prima di fare le fondamenta della casa aveva già fatto il bunker, capito? Mia, lo sa chi ce l'ha? Walter Diabolik. Eia, lui sì, lui, se non ce l'ha lui, chi ce l'ha di noi, Solo che è brutto mi vivere in un bunker, è come stare i topi sottoterra, dipende dalle radiazioni, potrebbero passare mesi prima di uscire sopra. Vabbè, se uno c'ha tutto, sopravvive, però a livello di, come dire, potresti uscire di testa per l'isolamento. Guarda che stanotte è scendo un cannone, un cantone là sopra, si vede col binocolo. Ehi, guarda, io c'ho... ma non mi salveranno comunque. La famiglia deve andare a cantine, sta tranquillo, si mette una bottiglia di vino e ciuccia la notte. Cosa è che stavi dicendo? Cosa stavi dicendo? Guarda che mi ero spostato un attimo e non stavo seguendo. Ah Marco, ti devo far vedere quella antenna J-Pol che ne ho tolto. Se sai com'è diventata, E come è diventata? Verde. Ma era in rame? Eia. Purtroppo si ossida. Se la fai in rame non smaltato diventa verde, diventa inutilizzabile, dai. Bisogna fare o comprarle professionali le antenne, se vuoi che durino. Ehi, è diventata legge, proprio del rame, gatta. Se tu la vedi ti metti a ridere come è diventata. Adesso io non ho più fatto un'altra al posto di quella. Che è tutta lunga, fatta in vetro resina, capito? È diversa, gli ho messo una staffa palo a palo e ce l'ho messa lì. Seia, ma funzionava comunque ancora quella in rame? Sì, sì, funzionava. Aspetta, anche coperta di verde rame, funziona, caspita. Ui, ui. Vai, Pupponi, dai. Guarda che la ringo, la vera ringo, è la fatta in rame, capito? Lo stilo d'alluminio, valorizzato però la bobina era fatta in rame, dove c'era l'attacco del PL, infatti diventava verde dopo un po' di tempo. Che cavolo, nemmeno smaltato era. No, infatti non l'aveva smaltato molto. Quindi le prime ringo che sono nate erano tutte in rame. Molto più grosse ma in rame. In barra da Pontogno, quando scala mi arriva. E sul liscio, si attacca un gigetto che c'è in garage, vedrai come ti faccio l'uomo nuovo. Ma si può buscare uno di quelli 131, BV131, Antonè, che magari mi può servire per fare qualche DX. Basta tenerlo sempre in stand-by. 140, 45 euro mi sembra che l'ho visto, date 30 mi pare. Ci ha contato il BV131 su eBay, quanti ne vuoi ce ne so, anche voi. E va, che valva la monta il 131? Da 519 se non mi ricordo male. Io invece ho quella, la lineare che ho io ho quella americana. Quella americana costa più di 50 euro costa. Ed è equivalente della EL519, così è. E infatti io ho lo Speedy CTH in garage, figurati tu, però c'è la valvola americana messa, poi c'ho quattro valvole conservate del 519, del BV2001 MK3. E due me le dai che c'è un lineare che c'ha due valvole io, in campagna. Cazzo, solo una volta mi stavo togliendo le valvole, ma ho giubilato cazzo una cosa che mi ha defibrillato completamente. E vabbè, gatta nel vento, io ci mettiamo d'accordo, se non è nuovo quella che ho io. E quindi tutto questo è fare problema. Ehi, bisognerebbe dargli una guardata a quel lineare. Ne ha due di valvole, di quelle lì. Perché io non sono riuscito a trovarle per comprarle. Io ce li ho originali dentro la scatola, ce li ho. Infatti l'avevo preso, ho detto a Fusaro. E mi ha fatto, gli ho detto guarda che ho queste valvole, ho detto quanto costano? Ho detto 20, 10 euro, qui 20 euro. Quanto sei matto, mi ha detto? Costano più di 30, mi ha detto. Figurati. E infatti io sono qua a casa, conservate. Ce li ho in garage, ce li ho. Perché se riusciamo a far funzionare quel lineare mi tengo quello là, invece di comprare il BV131. Vabbè, ti conviene fare così, scusa. Attarisce il lineare come il mio. Il KL203 e costa, non me lo ricordo quanto costa, pare 40 euro o 30 euro, non me lo ricordo, costa pochissimo, più la spedizione. Ma è transistorizzato così? Sì, sì, beh ormai il BV131 è un barragione, cioè non trovi più valvole, è roba vecchia, nuovo non lo trovi più, ne trovi usati, e chissà come anche li hanno usati. e se li hanno modificati pure, non si sa. Quando è trasistorizzato è piccolino, attacchi l'alimentatore, l'importante è pilotarlo con pochi watt. Per esempio in AM con 4-5 watt massimo di picco, capito? Ti dà magari 80 watt e materi da puliti, senza saturare. E il K poi giri in banda laterale, perché a me mi serve per la banda laterale, capito? Quando entra la propagazione io mi metto nel canale di chiamata e chiamo lì, capito? Eia, la tripla 5, adesso vediamo la propagazione come sarà questa primavera estate. Siamo ben lontani dal picco solare che è ogni 11 anni, siamo ben lontani. Io ancora la propagazione non ho sentito neanche con l'antenna grande, figurati. Adesso vediamo un po', quando entra qualcheduno di DX me lo faccio. Eia, sulla tripla 5 il canale di chiamata, ogni tanto qualcuno si sente. Ho notato, se chiamo con 30 watt non risponde nessuno, se chiamo con 100 watt le lineari allora iniziano a rispondere. La radio più alta c'è, non ho guardato quanto ne arrivavi. Più alta là comunque, quindi anche il segnale dovrebbe essere più alto di come mi arrivavi prima. Da casa tua mi arrivi benissimo. Vabbè, adesso c'è un furgone, capito? Da dove vai? Sto finendo di fare la cosa. Ciao a dopo. L'importante è che mi senti anche tu a me, non è problema. Tramontana oggi. Cosa? Non ho capito. Sei tramontana. È un vento fresco, sì. Sta venendo dal nord, dalla Corsica, ma è fresca da nord, capito? Adesso mi ci devo, buongiorno. Non te lo fa male. Minchia, mi ha freddo lì qua. Va bene, tutto a posto, che ora sono 7-5, gente, fa un poco d'ora, altro giro, altra cosa, finì, mi hai rotto il camagigi, cazzo mi lecca il piede, e lecca tua sorella. Grandissimo connudo. Fettuso è quel cane, fettuso è. Filippo, mica siamo a Siviliano. Mamma mia, vai a mangiare il gazzino, chi c'è? Catalino c'è. Io la bagaccia e tuo zio. Siamo ciclato il piede. E beh, Antonetto, a posto. Ehi, hai tutto a posto. Ehi, sono qua. Ho fatto la cena a Giampiero, adesso fa un po' già scendo giù. Sono stato Massilla. E i primi 3 giorni ho soffrato un pe. Era da prendere e spararlo. Adesso ho cambiato parte di Sima Giovanna, adesso è molto più calmo. Ma prima c'era la precipità allucinante. Figurati, mi ha tirato una bottiglietta di acqua addosso, ma quasi l'ho deviata un po' con l'alcol con il bacio, ha pigliato il muro in pieno. C'è un po' scendo di quelle bottiglie piccoline di acqua minerale che c'era lo stigmi. Perché te l'ha tirato, oggi l'hai fatto? Voleva la birra delle sigarette, hai detto ad a cagare, grazie. Cos'è? Non gli è bastata, no? Ma me lo immaginavo, e perché faceva così, quando faceva rientrare a casa, con la pia sopra il vento, gli ho detto, no. Adesso cambiamo tattica adesso, adesso è molto più calmo. Adesso non c'è bene, come fanno più in sigarette, il capattino è chiuso. No, gli devi dire, tu hai finito di bere, hai finito di fumare, il tegaccio, sigaretta e birra. Quindi ti tira quello che c'ha nel comodino. No, la fa pieno per il culo e già è tranquillo, capito? Perché risponde così, quindi è fatto in quarta, si incazza. Oltre che accudito, che lo accudite ci permette anche di essere aggressivo. E mica non è colpa sua, Marco, c'è da capirlo. Vabbè, ma la responsabilità di come si è ridotto è stata la sua. È inutile adesso pigliarsela con i fratelli. Diventa aggressivo, se tu gli vai contro diventa aggressivo e ti rende la vita impossibile pure a te. E ti piglia l'esaurimento nervoso. Capito? Non fanno. Era già un di lui, sì, anzi. Babbo, mamma e lui, Vita dell'Ave Maria. Ma perché anche tuo padre hai dovuto accudire, Antonio? Allora, che babbo diventava aggressivo, perché quando era a letto poteva avere un po' polmonite e poi c'era una cosa alta luna, dritta. E quando è venuto a abitare il gabbato tutta la mattina, che non andava più in campagna, allora ha preso e a Pompiglia si è messa a mangiare un bel e non è stato finché mi sono bloccato le gambe, capito? E quindi dopodiché rimaneva a letto, poi pigliava e si buttava in terra, non faceva apposta, alla fine a un certo punto non ce la facevamo più. Già pesava già più di 100 kg, figura di due. È un problema quando cominciano a fare i capricci. Mamma mia, mamma dei turchi. E adesso secondo governi, se riesco a vincere la causa con quelli dell'Inps, che mi restituiscono tutto, prendo una bandata e prendo la mattina e la sera. In pratica ci vuole una persona stella per il fratello, per renderlo, capito, tranquillo, perché lui in ospedale se ci sono persone esterne è un discorso, se ci sono familiari la questione è quella, capito, e quindi metto una persona esterna sia la mattina che la sera, 3 ore al giorno, viene a pago, me la frega nulla, sono vicino, chi sono io, ma almeno sono tranquillo io, posso anche per uscire quelle 3 ore e posso anche svagarmi, così siamo in galera io e Giovanna, tutti e due. Gli ho messo qualcosa io, che ne avevo due da accudire tutte in una volta, di persone. Sì, vabbè, io ho iniziato la... se ti ricordi bene, io ci sono qua. Le due che c'aveva mia madre, prima una, poi l'altra. Figurati. Quindi ho cominciato da quella, cioè una che aveva pigliato il vizio di... allora papà era più magro, per dire, era ancora infermiere. Cioè, aveva pigliato il vizio di male di giorno addormentata e di notte faceva il lupo come il cane. Che ha preso il babbo un giorno, aspetta che ti arraggio io, ha preso la sorellata dal setto e ce l'ha buttata nel colpo, la mia non l'ha dovuta, la figlia di nel culo ha detto, ogni giorno dava due pastiglie di tacco per farla dormire, così me lo rompeva più le palle. Beh, loro già lo sanno come comportarsi. E immaginati, io li ho avuti qui, quando mi sono trasferito per un vestito a qua, figurati tu, e ne avevamo due, tutti e due sorelle. Poi da lì, dopodiché è successo a mio padre, dopo mio padre, mia madre, adesso Giampiero, naturalmente, tutti lì, figurati. E via, questo è un travaglio da non fare a nessun di là. A me l'impatto lo sai perché mi è venuto? Per quello, perché prima manica va dato la pressione, tutte e due, minima e massima, via via Ricelli, e ad Abui mi è giunto l'impatto buro. Tutto lo stress è quello, perché ti provocano un sacco di stress, oltre che non esci, sei anche stressato. E infatti già lo so, penso qualcosa io, lo stesso che ho pigliato l'altro giorno, non riuscivo neanche a coso, mi facevano male il petto, il collo, mi si è rigidito, mi facevano male le due braccia, capito? Poi sembravo di essere tipo smutto, tutto bene, la pressione era un bel alta, va via. E stai attento alla pressione, mio Antonio, mica è cosa brutta. Già non so già mai, perché guarda, il cerebrale, tutti i bimbi mi ha detto e sai, cosa mi ha detto. Ma che musica stai ascoltando? Sì. Si sente tipo canti arabi. Io non ho ascoltato la musica qua, la verità. Adesso è un con cuffie. E non sta manco ascoltando la musica. L'indirizzo la senti tu, è l'apparecchio tuo. A meno che le cuffie non stanno facendo d'antenna e sta pigliando le radio AM. L'ho sentita chiaramente. Che sto dicendo, io c'ho un stereo spento, lo sa che stereo non posso usare qua, c'ho tutti i garage, c'ho due piatti stereo con questi, lampade in garage, io c'ho l'amplificatore a 100 watt, non posso usare nulla qua, no, se io mi metto a 100 watt stereo, dopo 10 minuti devo bussare con il brato che c'è qua a fianco, figurati. Ho visto usare i biglieri. Bello azzillo, che c'è in assatto, c'è un tumore al colon. E chi usai? Via, da una cosa, dal medico che c'ho il travesone. Da me, cazzo, non voglio un preparato ancora. E intanto quello non è che abbia faticato, il travaglio l'ammazzava, visto. Quello è talmente cattivo che è quello dell'esercizio fino a centrale, te lo dico io. Ma ancora quei soldi non li hai visti, quelli di usai, no? Non ho visto niente. Mi sono riportati da casa, tutto una presa per il culo, questi sindacati sono. Se aver preso l'avrei messo a fuoco questi sindacati. Capano dalle belle degli altri, capito? Quindi, se lui si prende per sbaglio andare a lavorare, ci rimane a cagare il sindacato. Ma cosa ne faccio quella? Non vi conosco a voi, dico. Ma per fatto lui, ma mi pago una contessera per quello che guadagnano. Non mi sembra vero fare il sindacalista uno. Così almeno fa uno la mattina alla sera. Era ora Natalì. A testo di Jenny, Natalì. Chi è che mi chiama? Qui, tu era ora. E di cosa? Ti arrivi bene in Olga. Buonasera, Franco da Sosso. Ah, meno male. Allora te ne sei accorto del cambiamento? Epica, mi arrivi 8, diciamo con poco... poco queste mira, ce l'ho queste mira, stavo dicendo, quando parli appunto non si muove molto l'ago, però arrivi 8 fisso, arrivi qua. Ehi, sono basso, non è che sono alto di potenza. Che apparecchio è Natalì quello? Ma questo che sto usando adesso? Eia. Il GeForce. Ah, ma i watt quanti sono? 20? No. 15 sono qua. Ehi, fino a 40 ce n'è, dai. Ciao Franco, ben entrato. Guarda Antonio, quelli dei sindacati, mamma c'aveva un problema di soldi non riconosciuti a mamma da lavoro da insegnante. I sindacati da CISL non hanno fatto una mazza, non hanno fatto una minchia, detto in termini poveri mi. Gli hanno detto si doveva rivolgere a un avvocato se voleva far riconoscere i suoi diritti, noi sindacalisti, buoni quelli mi. Oh, i sindacati ormai si sono venduti, no, non fasene più nulla. Avvocato Bighele, e mandarli in causa questa gente. Infatti ho fatto anch'io, male. C'è quando devo riscuotere 98.000 euro, io 90 qualcosa, Manuele. E poi c'erano altri due ragazzi che come chi 25, chi 15. Non ho cavato piedi con l'audace, nulla, niente, non ho manco una lira presa. Tutta la prescrizione dopo 12 anni, capito? Quindi fu tutto. Antonè, ma voi quando lavoravate da usai, perché non pretendevate la paga mensile? Perché se uno non ti paga un mese, vabbè, ma se comincia due mesi, tre mesi e non ti paga, uno gira e gli conviene andarsene subito, perché l'antifono dovrebbe averla capita. Ma tu quanti anni sei stato da usai? 12 anni. E beh, 12 anni continui e non ti ha pagato. Nulla, vediamo solo i racconti, e basta. E più se, a volte quando facevo il lavoro si finiva anche la percentuale, era uno tutti con il giappone come tette, come cartone, mi hai visto la fine che ha fatto tette. A me cartone assumeva le persone, se lavi il collo, entravi subito. Se non lo lavi, non ti faceva entrare. Infatti quando c'era il programma comandava lui, dopo che... dopodiché se sono accorti di quello che faceva lui, il brigato gli aveva detto che non te ne vai, non ti sicuro ci buttiamo fuori. Ha preso se se n'è andato. E l'unica cosa di rimasta è il capannone, quello celeste, dove ci sono i cinesi adesso, dove c'era l'ex mercatone, basta. Oi oi oi, usai usai, mamma mia. Io due cose avevo comprato, le usai, due cose erano difettose. Un microfono per telecamera direzionale, non funzionava il LED. E un televisorino attascabile a cristalli liquidi, c'aveva una striscia sul display. Un pixel orizzontale che non si accendeva. Capito, sembrava roba difettata quella che vendeva. Ancora non è cribbato, no? Ancora no, purtroppo no. Infatti si è ingrassato e confrontato prima. Prima la madre madre. Figura, adesso è ingrassata. Oi, ha fatto male quella volta che ci ho portato a pronto soccorso, mi ho sbattuto la testa alla porta d'alluminio. Allora, non lasciaccio volta l'ascensore, facciamo scendere giù in... dove... al piano terra. Lì l'avrei dovuto lasciare, guarda, lasciato lì, abbandonato e basta. Avrei fatto finta di aver davvero perso per strada. Oh, Natalì, ma quanto ti arriva Franco di segnale? Non l'ho guardato, ma vi dico sì. Capo, dai. Comunque c'è una cosa, Marco, ti ha superato, Natalino? Grazie, io ho 4 watt, l'unica 15, più 20 modulati almeno. Capo, tu sei lati a 7, mentre Natalino è 8, un po' arriva quasi al 9, dai. Beh, no, può darsi anche che sia migliore la posizione sua, anzi sicuramente migliore. Perché ricordati, io ho tutta Prunicetta che mi copre sorso, tutto, anche Porto Torres mi copre. L'antenna mia vede solo la zona industriale di Porto Torres, la vede dove ci sono le torri, però Porto Torres città è già un po' più coperta. Vabbè, sono contento per Natalino, no, che sia più libero. Aspetta un attimo, quanti watt hai detto che hai? 5 watt ho messo adesso. Guarda Fra. Sì, adesso c'è o meno di 8, c'è l'altro 8 e 2, là. Con 5 watt. Quanti ne hai, Marco, tu? 4, questo è un omologato, 3009 omologato. No, già è buono Natali, sicuramente sei posizione migliore a sorso, molto migliore. Natali, comunque. Vabbè, non voglio cazzare, ma il medico ultima. Ecco, 4 watt. Adesso sono come quello di Marco. Sempre forte, sì. Sì, a livello di Marco, però c'hai più picchi positivi di Marco. Ma ti ha mandato la foto di avevamo piazzato centenna? Mandalo la cosa di mica parla a Franco. Cazzo, un 4 watt a meno sono scendono qua. Va bene, sì, a portante bianca, sì, sì, scillante, diciamo, verso i 7, quasi 8, va. No, ma è la zona di Natalino è migliore per sorso della tua mappa. Se consideri che avete lo stesso segnale qua e tu sei più vicino di lui. Avete lo stesso segnale. Voi Franco mio, ho già battito a Monta Sant'Enna, però l'avevamo piazzata. Me lo immagino. Tutto in facciata dalle finestre abbiamo lavorato fra. Studiata 10 giorni prima. Guarda, pensavamo di non farcela. Ma no, c'era Massimiliano che già c'era braccia. L'abbiamo tirata su con le corde, ma 10 metri di palo con due piantoni da un pollice e mezzo, mi tu immagini già dell'obeso. Figurati. Aspetta un attimo, mi è sembrato che c'era Gigi Vulcano. Gigi, tu c'eri, di quello, sì. Sarà Sandro che fa tutti a sorso, via. Non mi gribassai. Lascialo va, lascia Marivia un gavetto dell'FL 2100 ad attaccare al chimbo, trova pure con chi la cazzosa è dopo. Lui va bene, dai, non dico niente, sono calmo, ma non sono arrivato della radio, è meglio. E anche sto andando con 30 watt, 50 modulati, ma c'è un amplificatore che siccome non lo sto usando più in HF, mi ha ordinato il gavetto capito? E lo agganciamo una M e poi vediamo quanto sale. Quanto sale già. Vediamo, vediamo. Vediamo se cambia segnale. Come? Cosa c'hai, Franco di Alghero? Cosa c'hai? Ehi, ehi, ehi, lo sai, sì, che a che saltata scherreggia. Segnale 7, insomma, e tu di attenuatore. Vedi che tu sei 7-8 con quel barracchino. Attaccati l'altro, dici meglio. Va bene, signori, io mi preparo e vado a portare il cane, dai, che poi c'è... Barcellona, io vento, se non voglio sentire neanche la mosca volare. Ma lo porto il mio barracchino. Capo, dai. Dai, vi saluto anche io, niente, devo andare a trabacco dopo. Ci sentiamo tutte le prossimine, salutoni a tutti, dai. Marco, Alessio, Natalino, mi è sembrato... Vabbè, dai, per non sbagliare, saluto a tutti. Ciao, buon proseguo di serata, buon tutto, dai, Natalino riprendi. Allora, se tu non stai andando al lavoro, buon tutto, alla prossima. Marco, avanti. Ciao, fra, ci sentiamo, stai bene, buon tutto. Ma ti penso io a te, Marco, li mettiamo sulla via di due, ti faccio vedere che modifico l'antenna pompa, quanto l'ha fatto la pompa. Ma me lo porto io il mio barattino. Qui l'altro mi ha cocco, ma ne me. Sì, ma però non mi tocchi. Ciao a tutti, ciao Elio. Ciao Cla. Ciao Elio. Ciao, buonasera. Ma me lo porto io il barattino. E beh, Claudio, buonasera a tutti, me lo ascoltate. Ciao Claudio, cocco, ma ne sei, Claudio, va bene, ok. Ehi, cocco, ma ne sono, allora, ciao Elio, buonasera, no, mi sto andando a portare il cucciuccio, così mi tolgo a mezzo ai piedi e poi sono libero perché alle 8:30 c'è la partita e voglio sentire manco la mosca volare. Dai, ciao a tutti, ci sentiamo più tardi, a dopo, se ci siete, se no, tenete duro, ciao. Ciao, fra, ciao, a dopo. Marco. Non ho salutato Franco di solito. Ciao Franco. Dai, sentiamo. Elio, vai avanti per Natalino. Ciao Cla. Ciao a tutti, buonasera. Mi sentite? Sì, no. Ma tu Elio ti chiami? Sono un nuovo, nuovo ascustato. Avanti Elio. Vai avanti, più avanti così, non c'è il muro qua, non posso andare avanti. E tu spingi, fregati Elio. Elio, mi senti? Campa che ti ascolto. Me l'ha ascoltato Natalino, sta arrivando forte, dai, ti do il segnale, vieni avanti. E aspetta, provo la vuoi abbassare. Guarda il segnale. 9:10 con picchi nel 9:15:20. Ma capito che forte di me arriva questo buon comune, eh? Ah, ma ti devo mandare le scorrate a casa tua, ti devo mandare. Ma dove è il tuo numero, eh? Cacchino non vuole poi in discussione il nostro lavoro, eh? La gente c'è una riga di tuoi, già voglio vedere come arriva con la Energy, vai, e fatti una cagata, vai, ci si è accorto. Due, due allora. Allora, la Energy, poi la Energy, certo, con 15 antenne a Bicaronica, ma non farvi. Ci sentiamo dopo, va, che mette scappa la rigia, che sono 9:20 da lì. Ah, a un metro dal tetto quell'antenna e quest'estate le aggiungiamo altre due tubi. Ehi, mandagliela Elio, Elio, ce l'hai per mandargli la fotografia di come l'abbiamo piazzata, no? Ma quindi scappa la rigia, Elio. Io lo sai, Elio, è lavoro che facciamo noi, non abbiamo problemi. E per quello lavoro a maestri, ma lavoro a cipitono. E allora, devi mettere il tubo in facciata, e cosa vuoi che sia? Certo, non dico io. Che antenna ha messo? La Energy 5 ottavi, la Energy abbiamo montato. È una buona antenna, funziona bene, costa poco, però il lavoro è alla grande, perché non avevamo appoggi, capito? Dalle finestre abbiamo dovuto lavorare, però l'avremmo fatto a Mattesi. Lì li vuoi la accusatori ci sono di volampà. Oh Claudio! Sì, è quella contro il radiale, sì, non c'ha niente stazionario, zero stazionario, dimmi tu. Ecco, diciamo che ha lavorato cioè come si dice, quando uno lavora non si ferma un attimo, uno ha in apnea. Ehi, è una apnea, allora, una apnea se lo bombi a eto. Guarda, comunque la NCC contate quella che segreto di compagno Carino è una bomba come antenna, anzi se li metti per vedere i grappoli pompa ancora di più, e te lo dico di traccia, l'ho avuto io, e uscivo fortissimo per vedere i grappoli, rende bene come antenna, il problema è l'unica cosa che non posso fare più i 500 watt, ma a Carino non avrei fatto nulla attaccare i 500 watt, ne bastano 200, però c'è un grosso guadagno, con il cadere dei grappoli è tutta un'altra cosa. La P27L o la NC, guardate come la, si deve chiamare. Io l'ho avuta, anzi ne ho avuto due in realtà, e uscivano veramente bene. E l'hanno mattata. Tu hai un ricordo qua, il garizzetto, l'ho avuta io, anche se c'erano le originali, però dava mattata con lineare. A voglia. È una bella antenna, eh. La verità è una bella antenna. No, sarà un avanto, ma però va bene. È ottima, capito? La mattola lì non la potevamo montare perché se no ci vuole la gru a tirarla su. Quella va bene, va bene. Anche con quei radiali va benissimo perché se ne mettiamo quelli più lunghi va a toccare sul tetto degli altri e non va bene. Ma a dopo se ci siete, un saluto circolare a tutti. Ciao. Ciao, ciao. Certo, se avevo avuto due, tre radiali di Mantova, li avevo messo quelli, guai. E io vi raggiungo i radiali della Mantova, non ti preoccupare. Quando ti razzemo di altri due, di altri 4 metri, diciamo che non buco i radiali. Adesso sfruttatela così. E infatti, anzi se non avevo nulla, il radiale era meglio. A me mi si è strottata la punta dell'antenna perché ha toccato Antonio e cazzo. Guarda, a metterla come l'abbiamo messa è una cosa allucinante. Già me lo immagino la tarina, già ho visto come ci ha riparato tutto quello che sto dicendo. Lì va bene, l'unica cosa al limite è in seguito con la scala aerea, cambi radiali, sono il riparo, cambi radiali e sei tranquillo, pompa ancora di più. Se succede che è una cosa allucinante con i radiali di Grand Prix, se li metti i radiali di Mantova va altrettanto, sono uguali, non cambia nulla, sono più corti ma vanno veramente bene, perché io li ho provati i radiali di Mantova, sì. C'è la B27L, riusciva benissimo. E come attaccare nella Mantova 5 radiali di Grand Prix? Ti ho ricordo che il lavoro che avevo fatto alla Buonanima di quel ragazzo di Roberto che faceva il piccista della volta. Era una cosa allucinante, l'ho toccato un papà qui da Monte Bianchino. L'antenna è tutta la lì buttata sopra il tetto della casa dove viveva lui. Figurati tu. Antonè, Eia. Ma chi c'è? Non tuo nipote che parla nella camera? Ehi, al telefono, Alessia, sta parlando col telefonino. No, allora la voce che sentivo è quella, dai. Ecco, però già lei, Alessia che c'è qua. Vive qui. Figurati. Va bene, io adesso mi stacco da qui e faccio la parete anche giù, con l'antenna di barca. Ma lì che se ci sentiamo, anche se non è venuto, l'antenna di barca la purifico. Già ti chiamo la di dopo, dai. Così la c'è la Giampiero e poi li accendiamo l'otto. Marco, come si chiama quel lineare che hai tu? Allora, RM Italy KL203. Guarda, è uguale a 747, però 747 ti costa 10 euro in più, perché è della Midland. Io ho capito, io una valvola ce l'ho in campagna, ci vogliono una valvola solo. Sì, ma se la valvola è una seccatura, perché devi fare sempre le platte, load, quando cambi frequenza, invece transistor e accendi e vai, non c'è più preoccupazioni. Già lo so. C'è anche uno come il BV131 che era transistor, però non mi ricordo come si chiama. Guarda, lo faceva anche la RM Italy, facevano lineare come il 131, però con la forma un po' diversa, no? Sempre con una valvola, poi facevano anche il due valvole, perché esisteva anche, se ti ricordi, il BV135, che era uguale al 131, ma con due valvole. Figurati. Ecco, avanti. C'è anche il 132, che ha transistor, capito, quello che dice Natali, no? Ah, sì, sì, con lo chassis sempre grande, però. Eia, c'è tutto il dissipatore dietro. Mi sembra che ce l'abbia Coso, Sandro, il portatore, insomma, quello del genere. Eia, ma l'ho dimenticato di quello, sì. Ciao a Massimiliano, eh. Comunque le prove positive, ottime a Sorso, infatti mi passa a parità di watt, non c'era manco a dirlo perché è più libero. Ottimo a come si chiama, Dovelio più, ma Usini, quindi buono, buonissimo. C'è anche poco cavo, lui 20 metri, quindi è ottimo. E già va bene, è una buona posizione. E anche bassa, amico, l'antenna, non è altissima. Se la puoi uscire fuori dal tetto, guai. Eia, lì ci sono sollevate gli altri 3 metri, solo che poi bisogna tirantare, non lo so. O non tirantare, non so se conviene. Guarda, il mio palo è sul tetto, non sul terrazzo, ma è molto corto il palo. 3 metri e mezzo, dal gabbiotto ne spuntano solo, dal gabbiotto al centro del palazzo ne spuntano solo 1,5 metri. Capito? C'è anche l'antenna della TV sullo stesso palo. E perciò non ho dovuto né tirantare né niente, perché l'antenna è bassa, poi pesa nulla, è sottile, il vento la attraversa, cosa vuoi di più? Ah, così va bene, a voglia, per me ce ne prima gli ali, boh. Eia, certo, un linearetto può aiutare, per esempio con Giuseppe di Alghero, che arriva a basso e riceve anche basso. Ma basta anche un KL203M, te l'ho detto, 40 euro costa. Più la spedizione da, come si chiama quel rivenditore su eBay? Radio, no, aspetta, ma non me lo ricordo. Ma lì si mette un 747, che c'ha il finale a MOSFET, da 100 watt, e ve ne pari buchi. Vega, è uguale a questo, mi sa che dentro sono uguali, no, il nuovo... Ma ho il nuovo, il vecchio 747, non mi ricordo quale sia quello uguale. E anche questa MOSFET, ha 4 finali. E guarda, rapporto prezzo watt guadagno è il migliore. Però il 747 ci puoi entrare con 10 watt anche volendo, Sì, anche qua, è uguale, 10 watt massimi. Il problema è che io ho fatto tutte le prove. Allora, con 10 watt circa satura, con baracchino normale, tipo questo omologato, con 10 satura, con 9 watt satura, con 8, con 7 satura, con 5 watt esce pulito, magari ne dà 80 di watt, ma puliti, senza saturare, poi con 4 watt lo stesso, buono, capito? Cioè con 10 watt ne dà 100, ma alla fine li dà sporchi, saturi, è quello che dico sempre a Antonello. Antonello, è inutile che piloti il linearetto con tutta quella potenza, esci saturo, non l'ha compreso, dagli 4 watt e vedrai che uscirà pulito, magari 70-80 watt ma puliti, Bene, vai Natali. Ah, Natali, se vuoi te lo presto e lo provi. Cosa è successo? No, ho sentito Natalino di splatter, sicuramente ha sfiorato i tastini per i canali che sono molto sensibili sul mic. Natalino, mi senti? Natalino, rientra qua. Già me ne sono accorto che si è spostato. Dicevo, se vuoi ti presto questo, c'è anche la ventola. L'ho messa elastici la ventola perché non volevo rovinare il lineare. Attaccata elastici, un bijou, rimane sempre freddo. E così ti fai un'idea di com'è. E se ti piace te lo prendi uguale. E adesso lo vedo, va. Vediamo. Però ricordati che li devi dare massimo 5 watt modulati. Modulati, non di più, ed esce senza saturare. Se ne dai ben più di 5, satura, c'è poco da fare. È semplice da usare, proprio. Poi, te l'ho detto, rapporto guadagno è ottimo, ottimo. E lei sa perché dico così? Perché per uscire già con 80 watt paghi poco, se devi quadruplicare la potenza, cioè se devi salire di un altro a Santiago devi quadruplicare la potenza, quindi 4x8 32, e un lineare da 300-400 watt lo paghi molto di più, un'infinità di più, alla fine per un Santiago in più usa di una futti. Infatti, questa è bella, MD507. Ricordati che la tua antenna di picco sopporta 500 watt in banda laterale, picco, ma strozzomi, tu in AM continuo ne puoi usare 150 massimo, c'è un terzo della potenza di picco, della potenza massima. Ehi, lo so. Io ce l'ho quello, Natale. E cosa, 507? E io. Cazzo, si deve essere una bella. Bello, bello, vabbè. Dentro alla fine c'è un lineare a 24 volts. Figurati. Ah, dentro è fatto così. C'è un lineare a 24, alimentato a 24 col trasformatore interno, così è. Sì, così è. E puoi farti anche un alimentatore volendo a 12, sia a 12 che a 24. Puoi usarlo sia alimentatore e sia lineare. E Atali, potendo usare... Quelli sono immediati, non devi stare con questo plat e load a tarare il finale ogni volta, a tarare le valvole, quando ti sposti in frequenza. Accendi e vai, non deve scaldare, non deve fare nulla, tu accendi e vai. Il bello del transistor è quello, l'importante è pilotarlo basso. Il mio c'ha 10 watt in ingresso, ne devi dare massimo la metà di la metà. E vai pulito proprio. Se vuoi te lo faccio sentire. Già l'avevo già sentito. Ma Marco, qui c'è un'altra storia, bellone. Quale? 507 è un'altra storia, capito? Poi non aumenta un Santiago come dicevi prima. Fino a 100 watt mette a 300, non aumenta un Santiago solo. Beh, la regola è quella, se tu per esempio ne hai 100 di watt, no? Se vuoi aumentare in un Santiago, bisogna quadruplicare la potenza, così è la regola. E da 100 diventano 400, aumenti di un Santiago, 6 dB, quello che è, cioè questa è la norma regola, poi se trovi smitter generosi, quello è un altro conto. Kappa, positivo dai. Comunque Natali, se guardi su subito sui bidi, questi 507 ce ne sono in vendita a 150-170 euro. Lo so. Ma c'è da fidarsi a comprare usato? Sono tutti toccati, maneggiati. No, ragazzi, là ci sono le persone giuste. Lui se non vuole me lo dice, già la facciamo dare alla persona giusta. E così con quei lineari si brucia l'antenna, mi? Brucia l'antenna, tranquillo. Sai cos'è? Lì già ne dai 200 se al limite, mi. 200 continui. Anche poi se no bisogna rifare tutto la capo, Marco, c'è una persona che lo usa con 550, con 550 con la ZG, da 350 watt, ce l'ha qualche anno e non ha fatto mai nulla. Quindi... non fa proprio, non è che ti passa, non è che lui ce li ha continui, cazzo, ti fa il passaggio qui chiuso, non è che siamo sempre 200-300 watt sempre continui così, no? Scusa, No, sì, quello sì. No, ma continui intendo come sto parlando io, cioè non in banda laterale che dai picchi, no? Continui vuol dire che mentre parli i watt sono fissi, capisci? Quello lì. Ma su che antenna ce li ha questo che ha 350 watt? È uguale a quello che ci avete voi, precisamente. Vabbè, io per sicurezza non lo farei, io ne metterei 150, massimo 170, un terzo di quelli massimi. Alla metà non mi fiderei, lo sai, da linea 250 già non mi fiderei, perché se scala troppo poi è un casino a rimettere tutta l'antenna su. Vabbè, dai. Ma basta darne 200 solo, in AM, basta non salire più di 200 e mandare la terra ai 400. E infatti? C'è la regolazione, mica esce per forza con 500 watt, se tu 500 non li vuoi usare, ne devi usare quelli che ti servono. A me mi serve da farmi anche di ex manna laterale, boh, non per trattare i noghi. I noghi cosa li andate a fare? Fa sentire a niente. Beh sì, tu lo useresti per i DX, ma laterale, quindi non sono fissi, sono così a piccolo. Problemi non te ne darà, capito? Cioè se vedo che non arrivo, allora attacco e vedo un po' se mi sentono. Sento come con 100 watt, con miseri 100 watt di picco, a voglia se ti sentono. E allora mi prendo un DV132, quello a transistor, invece di usare quello a valvole, e così sono più sicuro e tutto. Ma ti serve subito la tariffa? No, subito no, ma cosa devo andare di Napa a compararlo? E io sto aspettando soldi che mi devono arrivare e ancora non mi sono arrivati. Più ritiro il giorno 1 io. Era giusto per sapere, va. E se vuoi mandare un messaggio a questa persona che ce l'ha, vedere cosa lo voleva anche, capito? Così magari non lo dà nessuno, te lo metto da parte. E te lo dico io quando mi serve, Massimiliano, ma fuori è questo? Non è fuori, che usa arrivare qua, vicino. E allora non c'è problema. Già, ti lo dico, metti la giuridina, tu chiedigli quanto ne vuoi. Vabbè, voglio capire anche se lo vende, capito? Eia, come fai, Mario? Il BV132 non è in catalogo della ZG, ma di quanti anni fa è il 132? Beh, però ce ne sono quanti ne vuoi su eBay, che li stavo guardando poco fa. Tanto se mi servono 100 watt in AM, io da voi non ne tratto né macchina AM, cosa lo uso a fare in AM? Qua disturbo solo e basta. Io me ne voglio andare nei canali di su e vedere un po' qualche DX per poter usare quello lì. Non lo userò neanche in AM, cosa lo uso a fare? Faccio una giacciarada attaccata, ma io... Se entra uno lontano in AM lo colleghi, no? Che domande. Eia, vabbè, dipende quanto costa anche, perché alla fine per spendere, che ne so, 80-100 euro per il BV132 c'ha gli stessi watt e li spendi 40, come quello che io, per dire, no? Cioè... Beh, lì ha ragione, ha ragione. Ma bisogna vedere se li posso mettere, perché questo cazzo c'ha il vizio, che c'ha tira un botto di picchi questo qui in me, è bastardo questo apparecchio, non è come te chi dei nevici. Mi tocca metterlo basso, però dopo devo togliere il turbo e tutto, che sennò pure una baricchiata. Sì, ma Natalino, anche il 132 non è che ti può entrare come ti vuoi tu, perché l'ingresso è sempre quello, ricordatelo. E mi sembra anche 10 watt puoi mettere in quelli là. Io lo metto a 5 watt. Sì, però a 5 watt è andato sempre a 40, Ghisso, di picco. E Ghisso, e forse con questo non lo puoi usare. No. Sì che lo puoi usare. Ci metti, adesso ti faccio l'esempio in AM, ci metti 5 watt in AM e il mic gain lo metti quasi da uscire come una radio normale, l'ho già fatto io, mic gain da uscire con una radio così normale come la mia, quindi senza picchi, senza turbomodulatore ovviamente, e ne dai 5 in AM. Per la banda laterale sai come ne regolo io, allora il mio c'è massimi e in banda laterale ne ha 20 massimi, mi segui? Io so cosa faccio, fischio in modo che si avvicini ai 20 come potenza, lo regolo massi circa 20 fischiando, però modulati ne dà la metà, quando fai ola ola non ne dà 20 fischiati ma ne dà 10 modulati e lo uso così in lineare, capito? Praticamente lo pilotto modulato, modulandolo alla metà della potenza. Ehi capo, poi già si può regolare, no? Non c'è problema, quello lì lo regolo. Il macchina quanto lo metti per non dare le sbalzinate dei cosi, dei picchi? Ehi, lì te lo devi regolare tu, devi fare le prove. devi controllare sul ROS, sul wattmetro, che non abbia picchi, che abbia minimi picchi, più qua, me qua, non è che ne abbia molti picchi. Questo c'ha la LC chiuso, Ah, la LC chiuso, cioè c'è la metà, me, in poche parole. Una volta che tieni quella radio senza troppi picchi, puoi mettere anche quelli in area in AM, ma la laterale li può anche dare un po' di picchi, però ricordati di non sbilanciarti troppo. Già si trova, basta fare prove, come facevo, fai prove, poi trovi la cosa migliore. Te la segni in un foglietto, se vuoi ti dica. I parametri giusti te li segni in un foglietto, se non te li dimentichi. Lo uso solo in banda laterale, non me ne frega niente di usarlo qua. Magari c'è anche troppo forte qua. Adesso sono con 20 watt, come mi aveva detto Claudio. Però come parli subito se ne sale 30 qualcosa. Già lo credo, quello non è un baracchino normale. L'Omega è un baracchino già pompato. Io non lo usavo anche per quello, avevo paura di farti VI qua, perché vabbè, lo facevano apposta a dirlo, non vedo la TV, ma qua lo sono già bidoni, lo facevano apposta, però sai, io quello lo usavo prevalentemente in macchina, ma che macchina se in movimento ti ne affutti, capito Natalì? Infatti preferisco il 3009 anche con l'amplificato di microfono che non quello a casa, non mi fidavo niente. Oh, io l'ho usato anche a massima potenza, non avevo un cazzo al televisore, nulla. Eia, poi vedi, se non si lamenta nessuno, il vicinato è buono, capito Natalì? E quando quello ha detto che la disturbavo, allora sai cos'è? Che la televisione aveva smesso di funzionare, deve essere a fermo il ponte ripetitore, no, non prendevano segnale, la televisione non funzionava giustamente. Dopo ha ripreso a funzionare, non mi ha detto più nulla. Però vedi subito, appena non vedo la TV, mi sta disturbando, ma come hanno detto qua di fronte mia, gira al mille balle sia. Era il tecnico che aveva fatto un pasticcio, e quello non vedeva nulla e credeva fosse io, invece non era io, come volevo farti dimostrare. Ricordati, le persone hanno magari antenne marce della TV con l'acqua nella scatoletta, cercheranno sempre l'antenna del baracchino, capito? Oppure c'è chi dice che mi disturba il citofono, mi disturba il coso, mi disturba, cosa ne so, il trappano, non mi funziona perché stai modulando, ti dicono bestialità del genere, mi sono capaci di dirti. Ma che sono rientrato, avete sentito, io vedevo sfasciare la testa. Se sei pazzo tu. Vabbè, ma no, che va insomma, ho conettato con le antenne. Ah, scusa. C'è anche Massimiliano, ho sentito che mi stavo cambiando. Ciao Massimiliano, buonasera. Mi va, BV 132, 55 euro. 50 euro il BV 131 lo sta vendendo Antonio Grotte, nuovo. Ciao Crati, saluto là. No, stavo ascoltando, stavo facendo ping pong, quindi stavo un po' ascoltando, va. Comunque va bene. Ok, tutto a posto Massimiliano? Parigi, ancora, non si è saluta. Va bene, ottima radio, bello forte e pimpante, sì. Va bene, ok. Riprende Natalia. Ehi cappa, pizzina. Già viso. Ehi, la lo sta venendo quel tanto, piglialo qua, che ce lo siamo qua. Il problema è la valvola, dopo quando si esaurisce una valvola è sul lineamento di rurampi e costa pure più la valvola che il lineare. Ah, perché non si trova? No, allora mi bisogna il BV 132 che ha transistor e sono più tranquillo. E lo paghi il doppio, così è. Lo intendi, no, Natalino? 55 costa. No, ma dallo sconosciuto costa 55. E cosa ne sai di come sono messi i finali? Allora meglio che lo compri da una persona conosciuta da questo nome non me lo ricordo mai, da Massimiliano. Cioè in rete ci sono un bel inculate, scusate il termine, inculate Io anche su Roger K, un forum garantito per il mercatino dell'usato, tutto garantito, mi arriva un apparecchio a casa e non trasmette. Infatti non ci ho più comprato niente da lì, per dire, ed era una cosa super garantita lì, capito? Ci conosciamo tutti su Roger K e invece non funzionava, capito? E quindi sono i bisogni, già lo sappiamo. Allora, RM, dimmi. 4 volte 3 RM Italy KL203 Kilo Lima 203, se no il 747 che va bene lo stesso, ma costa 10 euro in più se proprio lo vuoi sapere, perché è Midland e Midland è cara. Ah sì, aspetta un attimo, RM KL203 P amplifier, vediamo. No, senza amplifier, non serve a niente l'amplificatore, è come alzare il volume della radio. Se lo attacchi l'amplificatore d'antenna, attacca lo QRM. Sì, è come alzare il volume della radio, uguale. Allora, su eBay, KL RM 203, guarda, dovrebbe costare intorno ai 40 euro più spedizione. Quanti fatti c'è? Eh beh, i soliti 100 canonici in AM, ma laterale, ma non si sa, in teoria il doppio, ma... Poi non li dà, se fischi li dà, ma se non fischi ne dà la metà un slatti, parlando a voce, in pochi barauli. Ma io ho capito. Però, cazzo, sono 40 euro, più spedizione, cioè spendi poco. Già costava di più il bicetto 50, te lo facevano pagare di più e usciva di cacca anche, almeno quelli dati da Pomponio. Ah, Natalino, rimani così, e non spendere soldi in lineari, linearetti, rimani così, ti ho detto, conservati i soldi. Che ti procuro uno di questi e ti farò pure la radio proprio che prima ci abiteggi un culo lo grillo per già allineare. Ah. Ma lui servono per i DX in estate, solo in mano laterale, capito? Non per la M. Però sai, quando hai 100 watt, io ho provatomi, con 30 watt non tendono a non rispondere. Quando metti 100 già comincia l'orecchio a aprirsi, cioè rispondono amico quando parli di 100 watt. Quindi per fare DX sono meglio almeno 100. Ho capito. No, io adesso vediamo la prossima settimana o a fine mese. Adesso vediamo, vado a sentire Bianconi a vedere se c'è molto lavoro, se non c'è molto lavoro spedisco 4.30 da revisionare e poi mi tengo 4.30 e mi vendo 4.40. Lo voglio io. No Massimiliano, lo voglio io, lo vuoi tu? Compra! Non vendo io, non vendo niente, non ci avete già cani morti, quindi non vendo assolutamente niente. Anzi, me lo tengo, avanti, così non mi rompete i gamasisi. Compro! E appoggio. Sono Giambo. Non è che ti ritaglio le mani. E se chi sa questo è il vostro, Mi invidi un tagone, cazzo, perché chi è che mi seguo le mani? 42,40, cosa? Da 100 watt lo stesso, un legaretto così piccolino ti aiuta, non è ingombrante, Natalì. Io me lo mettevo anche in macchina, lo mettavo di due a Santiago. Se no te ne avevo uno io che fa anche le VHF. Oh Natalì, ma non è che ci sei, adesso che c'hai l'antenna bella tarata, l'accordatore ha detto che non ti serve quasi, così è. Serve, che su salgono appena, ma io, zac, schiaccio quel bottone, tune, e lui è fregato. Oh Marco, Oia. Se tu ti immagini che il mio microset, quello VHF, è 100, sì, da 150 watt, VHF della microset, è piccolo quanto è il 747, forse un pochino, ma leggermente più grande, costa 349 euro. Sì, sì, l'ho visto i prezzi. Allora, KL RM Italy, KL 203 per la M, 100 watt in AM, 27, 40 euro. Lo stesso lineare per la UHF 470 euro. Cioè, per le bande sopra costano un bel lineare, un bel. Trovo c'è uno in vendita. 250 euro, c'è uno in vendita. Capito? Se ti interessa, lo fai sapere. Le altre bande, però. Ma non esiste. 100 watt in più. ADMR, ciuccio. Io mi chiedo 100 watt, c'ho il 275H, non c'è 100 watt, non va 120 veramente. Quindi il work senza lineare, la radio che è così, davvero 100 watt. Ma il PMR è in UHF. Il PMR è in UHF, il gemellino di quello è lo stesso da 100 watt, cosa, sempre da 100 watt so, sia 275H che 475H. Ah, tu c'hai la coppia, 275-475, ho capito. Io c'ho tutto, non mi manca niente, mi manca una bella negra che la sera a quest'ora mi fa i massaggi, poi per il resto ci abbiamo tutto. Aspetta, Natali! Oh! Chi mi chiama? Massimiliano ti sta chiamando. Io sono Natali, quant'è che hai detto che costa quel BV-132? A quanto l'hai visto? 55. Ah, ok, no, ciao. Dove ti andano, fate la luce. Dove ti andano, Massimiliano? Poi... Mi ascolti allora. E dopo il 20 ti ascolto. E io non aspetto la mattina, però c'è la lampada. Ci vado un po' piano. No, già arrivi qua, 9:20 sentono. Cioè, va bene. Massimiliano. Ehi, stavo dando un messaggio strimpellato, dimmi. Hai ritucciato, oggi ti dici andendo. No, ero qua. Aspetta un secondo, mi è arrivato altro. Ehi, mentre io sto vendendo invece, per chi interessa, l'M500. L'M500. Della Intercet. Capito? Se serve qualcuno... Lo sto vendendo 50 euro nuovo da mettere il connettore per qualsiasi tipo di radio. Ti l'ho regalato, cioè. E cosa, il M500? Sì, te l'ha fatto il Ciao, Popo, e buona cena a tutti, ciao. Ciao, Luca Rie. Ciao, Luca. Sentito Pomponio, lo devi regalare, vuol dire che vale poco. E allora te lo regalo, vai compare già a vedersi ragazzi, va. Vai a vedersi ragazzi. Mentre la busta non vuole nuovo. Ma Fernando, non regalo più niente a nessuno. Tanto quando regala la roba, dopo che gli hai regalato la roba diventano infami. No, non è vero, è così bello regalare la roba. Ce l'ho fatta. Sì, davvero, la prova. E magari ci va su vacco e fu scendi. Perché? Pomponio? Ehi, Antonello, che sto uscendo con l'antenna della barca. La barca ce l'ha parcheggiata in via Vanno Basso. E l'antenna ce l'ha nel poggiolo. Il timone ce l'ha in camera da letto. Gesù, grazie. Ma che sei bravo, grazie, allucinante. E la prova ci avverà il campo. A casa del fratello. Basta mettere un antennino di macchina, ragazzi, per forza non in barca ci vuole. Io avrei fatto una prolunga da casa sua fino a casa del fattello, avrei attaccato la 5 ottavi. Elio, io avrei messo la barca alla discesa di via Serrasecca. Dimmi, no, che poi arriva a casa mia e si curia la macchina. Ho detto, non ti serve un cambio a te, non è MC85 con un 60. No, non ho capito. Mi serve un altro MC60 e do in cambio un MC85 col parametrico, se ti dovesse servire, capito? Fare un cambio. C'è un MC80, è tipo quello lì, ma ti serve un MC60 a te? Eia, no, quello là c'è il parametrico, 85 superiore all'80, c'è anche l'equalizzatore, capito? Sì, sto cercando un 60 per il 780, capito? Perché mi manca, ecco, il microfono normale, no, mi piace. Sto cercando un altro 60, però in cambio do un 85, capito? Se c'è qualcuno che ce l'ha, perché l'ho dovuto attaccare al 790 l'altro, quindi siccome c'è anche il 780, allora ci voglio mettere un altro 60. Ho capito, ho capito. No, non ce l'ho, io ne ho due. Però se aspetti 9 mesi, aspetti che li metto uno dietro l'altro, dai. Ehi, accoppiali, accoppiali. Ce ne abbiamo un altro. Sì, lo sapevo che ce l'avevi, per quello te l'ho chiesto, detto nel caso ti serve un 85, facevamo un cambio, capito? Perché 60 è più fine, se no un casino, questi microfoni. Va bene, avanti a chi tocca. No, tutto muto, tutto silenzioso. No, io ho anche lo Yaesu MD100, l'ho comprato, ho aperto la scatola, l'ho collegato, una porcheria, l'ho sfondato di sotto lì. No, io con lo Yaesu funziona benissimo, la verità. Banda laterale però, banda laterale. In AM è una grandissima stronzata col microfono perché non era amplificato, capito? Io lo so, però c'è da fare una modifica che ho visto in rete e adesso la voglio fare. E comunque, niente, nello Yaesu io ho rimesso le MC60, le 950 e tutti mi dicono, tutta un'altra cosa. No, è un'altra cosa, sì. Oh, io ad esempio l'SM20 non ce l'ho sull'ICOM, hai capito? C'è lo stesso Kenwood, si sposa benissimo, guarda, ICOM e Kenwood sono una cannonata, e anche Yaesu, perché io con l'MC60, col connettore Yaesu, che poi ho dato anche l'MC60 quando ho venduto 920, e lo stavo usando in AM, la stessa modulazione di questa, precisa identica. KK, sì, no. Lo so, infatti per quello ne ho due MC60, uno ce l'ho sullo Yaesu, uno lo uso sul TS2000 e me ne servirebbe anche un altro per usarlo col 450, con il Kenwood 450, capito? No, io c'ho invece l'ND1B8 della Yaesu anche, sai, quello che si assomiglia molto all'MC60. Va molto bene, però c'è il connettore ICOM, capito? L'ho provato sull'ICOM e non spinge come il 60, spinge più il 60. E quindi vabbè, l'ho lasciato così, ho detto, può servire il connettore ICOM, eccetera, capito? Quello lì è meglio dell'MD100, la modulazione è più corposa rispetto all'MD100, anche in banda laterale. MD1B8, C8, sai, quello che si assomiglia molto all'MC60. Vabbè, dai, nel caso poi faremo qualche prova quando ci vediamo. Ok, avanti, Marco, riprendi, tu fai girare. No, riprendo io che vi saluto, Claudio. Vado a fumarmi una sigaretta che mi sto bevendo questo fermentino e ci vuole una sigarettina adesso. Vi saluto, lascio tutto acceso e sto fuori a fumarmi la cica, però non so se rientro, Quindi vi saluto volontariamente. Ciao. Oh, Candolatti, so che lui bene, che questo fermentino mi attizza. Guarda, questo fermentino me l'ha dato una bottiglia e ti ha mandato la foto già a metà, mi fa vedere nel radio, uscirmi, fa fatto buon prendere. Era già vista la foto, vabbè, tu dilli all'amico tuo, ho detto Claudio, capito? Una bottiglia di quel fermentino che è buono con quelle formagelle. Qui si sente di appena entrare una bottiglia. Non stavo più scemo. Ora, colpettino, Claudio. No, bisogna verificare qualcosa lì, non mi piace che i colpettini. Vabbè, dai, ne parliamo dopo, vado a provare una sigaretta, ciao. Ciao, bello bene. L'altro giorno ho detto dai un bacio a Daniela, invece mi sono confuso, dai un bacio a Gaia. Quindi te lo ripeto, dai un bacio a Gaia e salutami a Daniela, ciao. Ciao, grazie da parte loro, ciao. Qui si scendevi appena per una boccione di vino invece qua. Sì, ma ci devo scendere. Se non lavoro a fine settimana vengo a trovarti. Mi prendo il caffè e poi mi porto via un boccione di vino. Sì. E voglio vedere. Pasco, aspetta che stacco questo microfono e attacco l'MC80 a vedere come esce. No, va a vedere, perché te l'ho sentito con l'80 non mi piaceva la modulazione, 60 è perfetto. Forza Juve, quanto manca? 20:15, mamma mia come sto. Vediamo un po', come sto scendo? Aspetta Antonè, per prova Elio. 1, 2, 3. E meno è tutta praticamente molti bassi, cioè, mentre il 60 c'è anche degli acuti, è molto meglio il 60. Vero. Guarda, non c'è niente sotto, aspetta. No, non c'è niente. E vabbè, questo è il potenziometro, aspetta. ci vuole il potenziometro, questo è lo stesso. No, va bene, per carità, è chiara, però io preferisco 60 perché c'è la tonalità più acuta. Aspetta che lo vediamo subito. Eccolo, 60. Non è 60, meglio, no? Prova. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sto uscendo, sì. Sì che stai uscendo, prova. 1, 2, 3 e basta, perché mi hanno detto che sto disturbando. No, è qualcosa questa, l'80 è. No, 60. Non c'è paragone, non c'è paragone. Mi hanno dato un messaggio, mia moglie, no, aspetta. C'è un microfono, poi c'è una radio, poi c'è una televisione, poi ci sono mille lampi. Cosa vuol dire? Che fra poco mi divulgo anche i corrivoci. Cazzo di turbato! Anche lì bisogna che ti decidi, Ti decidi, ne la scendiamo con l'antenna, la mettiamo a posto e ce la mettiamo da un'altra parte. Cappa. Bisogna mettere la posta. Vabbè, dai, chiudo le trasmissioni, passo in quelli che si ascolta. Ciao Elio, salutami a Rita, dai, già ci vediamo a fine settimana, forse vengo a prendere il caffè, ciao. Marco, Natalino. Sì, stavo guardando i programmi della TV, cosa c'è stanotte. La partita è in chiaro, E dov'è? Sul 5? Eia. Beh, signori, io sto chiudendo, dai, che sono suonato, sono tutta la sera in radio qua. Ciao a tutti, Claudio, Massimiliano, Natalino, Elio, tutti quelli che ascolta, io non mi ricordo manco chi c'è. Ciao a tutti. Ciao Marco, anche io sto chiudendo, saluti a tutti, dai, ci sentiamo domani. Marco Gagatto, ciao. Ciao ragazzi, sì, anch'io intanto chiudo che fra un po' inizia la partita. Ciao a tutti, ciao. Ciao a tutti, ciao. Sveglia. Va bene, allora ti avviso, appena è pronto il 4.30, ti avviso e ti do anche il 4.40, bene va. Sveglia. Va bene, cosa mi ritorni? Vabbè, poi vediamo, dai. Va bene, sarà fatto. Ciao Vale. Vecchiume di Vegane, non agiro bovice io, no? Questi sono i cavalli a battaglia che manco, se mi dai 1000 euro te li do. A te li do, Gubbio. Vale, se salgo a fine settimana, se ci sei, da Giuseppe ti faccio uno squillo, ok? Qui ci prendiamo un caffè. Va bene. No, e qui ci vediamo 10 minuti. Poi ci scenderei tu, salgo io. Intanto devo salire per forza, perché ce l'ho in macchina quella roba per Giuseppe, devo salire a collegargliela e poi così a posto. Ah sì, va bene. Quando vuoi, io sono qua, ok. Ciao a tutti, ci sentiamo, dai, ciao Natali. Ci sentiamo più tardi magari se ci siete, ma io per il momento stacco che intanto vado a mangiare e poi mi guardo la partita, ciao. Io sto già mangiando e mi guarderò la partita, le plus. Ehi, entrate in chiaro, sul canale 5, Massimiliano, sul canale 5 la partita. Buona Pasqua. Va bene, ok. Ciao Antonello, tu fra poco finisci il turno, no? Sì, fra poco sì. Ah, ti posso finire la sigaretta di Ancalo perché stanno girando i coglioni e non puoi mangiare. Perché vuoi le sigarette qui, ne ha sempre pure la gente che manco io. Se vuoi sia fame, ha fame, e tutto la figlia in culo. Altro che sigarette, dili di mangiare, poi ci pensa la sigaretta, se non vuole mangiare non mangia, si rabbia in culo, come hai detto tu. Appunto per quello, bisogna riprendere la sua, andiamo dopo. È inutile, la gente non lo capisce, manco in punto di morte. Ciao. Via, ciao. Sul canale 10, cambi. Canale 10, cambi. Ora. Attenzione, binario 10, cambio. Hola. Ti pare ora di entrare, siamo tutta la sera in radio. Vuol dire che stavo facendo altro di più importante, Marco. Mi pazienza. Eravamo dalle 5 fino a poco fa, poi tutti sono scappati perché c'è la Juve in chiaro su canale 5. Ah, io sera, quindi ero impegnato. Diciamo che il tempo era ben speso. Beh, la radio è secondo ordine. Eia, anch'io per curiosità me la voglio guardare già. Mi sono già preparato tutto e dai, sentiamo domani o quando capita. Vabbè, io stavo provando a fare chiamata perché sto aspettando, adesso ho accompagnato questa amica, sto aspettando mio figlio. E mentre lo aspetto ho detto vi faccio una chiacchierata. Eia, io ho sentito il baracchino da... Stavo venendo a pigliarmi un cucchiaio dalla cucina. Ho sentito chiamare. Quindi Natalino va bene con l'antenna. Arriva a parità di watt, arriva più forte di me a Sorso, a Franco e più forte di me a Ita. Come si chiama? Dov'è Elio Piuma? A Usini, per dire, no? E quindi ottimo, ottimo. La zona quella lì è migliore forse, è più aperta per quella zona lì. No, già va bene, dai, meglio così. Non ho capito come l'avete messa le staffe, cioè avete messo di quelle staffe a gomito, quelle che si mettono per le antenne, per l'antenna del coso, della parabolica. Sì, a quanto ho capito hanno fissato il palo a queste zanche, pali per antenne paraboliche. E l'hanno tirata su a corda, io non c'ero perché sono convalescente. L'hanno tirata su di peso a corda, cioè 10 metri di palo più l'antenna di peso con la corda. E c'era Claudio che manteneva Massimiliano che era mezzo fuori dalla finestra, figurati. Cazzo, allucinante. Hanno fatto tipo ratapignara. Equilibristi. Come ho detto io, Mission Impossible, quello che teneva quello che si calava nel cavo del computer. Già, mi sta per iniziare la partita, io vado, Ciao Marco, ci sentiamo domani casomai, ciao. Io già lo sai che non sono sportivo, però sai, quando gioca la Juve la guardo. Visto che è in chiaro, è gratis, allora me la guardo. Poi io, Marco, io non ne guardo né se gioca la Juve, non me ne affitti niente, il calcio proprio non me ne frega niente. Vabbè dai, buon divertimento, ciao. Ciao già, buona serata, dai, ci sentiamo domani quando capita.